cioè quello che ha fatto Mussolini praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? Ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per gli scherzi cretini e di cattivo gusto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è tra. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Presidente, presidente. Dovremmo tutti essere più responsabili. Lo dico a tutti, lo dico anche ai nostri figli che questi giorni ad esempio non stanno andando a scuola. Insomma, bisogna assumere tutti dei comportamenti responsabili. Siate responsabili, siate responsabili. Gli italiani sono responsabili. Gli italiani sono responsabili, sono quelli che fanno le leggi. Che non sono responsabili. È così, sono quelli che non fanno arrivare i soldi in tasca agli italiani, sono quelli che marciano sulle mascherine. Ah, parleremo di questi, di quelli che non fanno arrivare i soldi in tasca agli italiani, che devono essere responsabili ma devono morire di fame. Di tutto questo parleremo stasera e ne parleremo con Giorgia Meloni, con Maurizio Belpietro, Giulio Tremonti, Paragone, Cesare Bonamici, Cruciani, Matteo Salvini, avremo Vittorio Felti, il professor Galli, insomma tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti. Allora, se mi devo far arrestare, scusate, aspetto ancora qualche giorno, piglio le bollette, piglio la ricevuta della banca che non mi è arrivato il credito, vado da quei cornuti a Montecitorio e mi faccio arrestare. Ascolti, se lei un domani avrà la responsabilità di governo, scriverà lei i decreti e assumerà tutte le decisioni. Io potevo essere stipendiata. We don't need no Salvini, ma lei fa i bocchini. Bocchini, bocchini, bocchini. Da casa Parenzo, David e Natalia Zevi avvengono anche cose belle nella vita. Buona domanda. Ottima domanda, Serena Bocconi. Hey, teacher, leave the kids alone. All in all, it's just a little brick in the wall. Matteo fascista di merda. La qualità dell'audio è pessima. Molto negativo. In diretta dalla Lombardia, dati negativi oggi, ma chi se ne frega, andiamo avanti, pensiamo positivo. In diretta qui, studi di Via Monterosa, Milano, dal bunker inespugnato fino adesso. Tocchiamoci a pelle, naturalmente, il sottoscritto. Applauso, grazie, grazie, grazie. Nessun atto di eroismo, semplicemente la cadrega, semplicemente il luogo di lavoro, niente di particolare. In collegamento invece mi aveva ingannato nei giorni scorsi, mi aveva turlupinato nei giorni scorsi, non dico perché, mi aveva turlupinato, ma è ritornato, non dico da dove, è ritornato nel bunker del Mossad. Ma! Beh, non lo dico perché avresti dovuto... non lo dico, non lo dico, ma, perché potresti aver violato la legge. Potresti aver violato in un la... altro luogo segreto, ma insomma, non sveliamo dove. Buonasera, cari amici, ma c'è poco da scherzare. Applausi, applausi. C'è poco da scherzare, c'è poco da scherzare, perché quello che il quotidiano libero. No, io non voglio libero, veramente libero, che. No, non voglio, perché sembra che sia una mia ossessione. Ve lo giuro, cari amici ascoltatori e cari miserabili che telefonerete dalle 18.35 fino alle 20.50. Non ce l'ho con Libero. Beh, oddio, per partito preso, non ce l'ho per partito preso. Non ce l'ho, ma oggi! Il che titolo era oggi? In rosso, uno scandalo svantaggioso, uno scambio svantaggioso, scritto in rosso. E poi il titolo, in Italia 30.000 morti, attenti alle cifre, 30.000 morti rimpiazzati con 600.000 migranti. Il direttore Senaldi che parla di sostituzione etnica, il virus preso a pretesto per regolarizzare un esercito di clandestini. Questa è immondizia. No, vorrei che anche tu. Non puoi dire questo. Vorrei che anche tu, di fronte a un titolo, uno scambio svantaggioso, cioè i 30.000 morti rimpiazzati. Ma è fattuale, è un dato di fatto. Io vorrei che anche tu, che vai a scroccare, rimpiazzati, dice, con 600.000, vai a scroccare le cene da quel direttore che troppo spesso a pranzo e a cena fa un abuso di vino. Io vorrei che anche tu. In questo momento hai detto immondizia, sì, e feltri ubriacone, sì, nell'ordine. No, abuso. Il titolo l'ha fatto Senaldi, che non so che cosa faccia. Senaldi, non so, beh, lui stesso dice che a pranzo beve, un titolo scandaloso. Poi si beve il whisky. In Italia... Io dico che è un titolo vergognoso. In Italia 30.000 morti rimpiazzati con 600.000. Ma è vero che vogliono regolarizzare gli immigrati? Anche tu, ci sono 30.000 morti? Lo fece la Lega quando governava il Ministero degli Interni Maroni, fece la più grande sanatoria mai vista. Le uniche sanatorie le ha fatte la Lega e tu dovresti ricordarlo. Abbiamo parlato con gli avvocati di A Buon Diritto che sono pronti a difenderti gratuitamente. Ma devi ammetterlo, gli avvocati dalla Lega ti difenderanno, gli avvocati di Manconi. Stai tra... li abbiamo tutti mobilitati. No, li abbiamo mobilitati. Devi dire che la più grande sanatoria di migranti la fece la Lega. Ma chi se ne frega? Questo devi dire. Il titolo di Libero oggi è vergognoso. Non avere paura. Non avere ma paura, io non ho Giuseppe. Paura di nulla. Continuerai ad andare in onda. Non avere paura. A costo zero, allora, quegli ragazzi, avvocati David, sono pronti. David Parenzo si sta concentrando, ovviamente, dalle sue magioni, ma dai cosa, suoi appartamenti. Magioni? È passato da una villa in Toscana. È passato da una villa a un appartamento al centro di Roma negli ultimi giorni. Ma lasciamo perdere questo dettaglio, lasciamo perdere. Mentre lui parla così, vi leggo solo una notizia. Imprenditore suicida a Napoli, oppresso dalla crisi per il coronavirus. Una storia terribile. E lui parla di Vittorio Feltri. Di questo titolo che dovrebbe scandalizzare. Che c'entra? La vicenda drammatica dell'imprenditore di Napoli. Cosa c'entra? Altra vergogna. Non ti indigni su questo. Cataldo Franco, carceriere di Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido a 13 anni e andato ai domiciliari. Ci una sono vergogna, circa sì. 300 boss, tra cui alcuni a 41 bis, ai domiciliari, altri 7, certo, anche il capo clan di Trani. Ma si dovrebbe dimettere con anche il ministro per me. Impaurita. E ma il ministro zitto, si dovrebbe dimettere. Il ministro zitto. Per me si dovrebbe dimettere pure il ministro. Per quando quanto noi mi riguarda. Dicevamo qui che 41 bis la gente deve stare in galera tutta la vita, tu dicevi no, anche gli ergastolani, anche i mafiosi hanno i loro diritti. Anche i mafiosi. Adesso non fai il finto indignato. Non ho mai solo, detto liberati. No, ma ti devi solo guardare allo specchio e vergognarti. Guardarti allo specchio e vergognarti. Non ho mai detto di liberare. Sei, guarda, incredibile. Comunque la grande novità, ragazzi, la grandissima novità di oggi è sicuramente il demone scimmia. Dico, perché il demone scimmia? È l'apparizione incredibile del demone scimmia al programma Le Iene. Tu dici niente di speciale. le Iene, il no. Demone Scimmia, non c'è. Non c'è. Sì, no, non vedo. Ho capito, però no. Insomma, ragazzi. Non è che intervistano los premi Nobel, hanno intervistato anche Vannoni, De Stamina, hanno fatto il Demone appunto. Scimmia, il nostro Demone Scimmia, ognuno ha i propri figli di puttana, no? Il Demone Scimmia è il nostro figlio di puttana, cioè il no, come Gheddafi per... Non sarà contento però se tu gli dici così. Ma figlio di puttana in senso positivo, sì, ma voglio positivo. Spiegare poi, ho capito, voglio Demone spiegare. Demone Scimmia le Iene. Ci sono delle correlazioni tra 5G e coronavirus. Wuhan, dove è nato il coronavirus, è stato il primo posto del mondo dove hanno attivato il 5G. Tant'è vero che la città più colpita e prendetevelo perché ve lo stanno mettendo. Non c'erano riusciti neanche con l'ISIS, ci sono riusciti con questo Covid, perché questo è un piano per decimare la popolazione. Un piano per decimare la popolazione, dice il Demone. Io so solo che per me questo virus ha mutato col 5G e prendetevelo. La questione in rete è ormai totalmente fuori controllo. Sì, è vero, totalmente. Poi tra l'altro in una delle sue uscite che hanno preso alle Iene dice anche che Confindustria nasconde, se la piglia anche un signor di Confindustria. Il Demone, senti. Buonasera a tutti, buon Covid-19 a tutti. Io mi sono bevuto una bottiglia di vino perché oggi sono andato a fare la spesa, quindi appunto. Sono un po' ubriaco, tanto per cambiare. Però scusami, da qui le Iene hanno preso. In questo video volevo parlare di chi? Non solo delle correlazioni o presunte tali che ci possono essere tra 5G e Covid-19, perché ce ne possono essere svariate, ma anche di quanto Confindustria, quindi anche Radio 24, quindi anche la Zanzara, quindi sempre anche tutti i mass media tradizionali, come dire, spingano per annoverare tra il grosso elenco delle fake news sul Covid, e forse l'hanno già aggiunta, questa questione del 5G. Comunque ragazzi, possiamo fare la sintesi, tu la potresti fare meglio di me la sintesi. Hanno preso il video di uno che dichiaratamente si dichiara ubriaco, diciamo la verità, hanno preso il video di uno che dichiaratamente si dichiara ubriaco ed è considerato dai signori delle Iene, nel servizio che abbiamo appena sentito, uno dei complottisti per eccellenza. Ma spicca un altro, ma questo ti dà l'idea. Il complottista può essere anche ubriaco. Del tutto. Ragazzi, ma il complottista per eccellenza è un altro. È ritornato il signor Marciano, da me ribattezzato, ma non lo vorrei dire perché mi ha già querelato. Credo che sia stata archiviata la cosa. Da me ribattezzato, ma non Merdanò perché lui è una merda, perché sparge, a nostro parere, spargeva della merda. Dunque il signor Marciano, detto anche che non se ne voglia lui e la procura o qualche procura, merda no, cosa? Non lo voglio dire, ma lo dico. Non lo voglio dire, ma lo dico. Espediente retorico, non lo voglio dire. Non lo vorrei mai dire, mi sono già pentito di averlo detto. Sì. Senti qua. Io sono dell'opinione che le conseguenze derivanti dall'uso intensivo del 5G vengono coperte con questa storia del virus Covid-19. E che vuol dire, scusi, Marciano, che vuol dire? Cioè tu non hai paura di prenderti il Covid-19? No, perché non esiste. Il Covid-19 non esiste. Ma chi l'ha intervistato da perdere? Chi signori delle Iene, sempre le Iene. Sì, certo. C'erano poi i mostri della Zanzara e hanno messo insieme per dire. Il 5G rispetto agli altri campi magnetici, che cos'ha in peggio? La frequenza, le microonde. Tant'è vero che noi le usiamo per cuocere il pollo, no? Allora noi potremmo essere dei polli che vengono leggermente cotti, un po'. Siamo come dei polli che vengono cotti dalle frequenze del 5G. Senti questa cosa qua. Però il signor Marciano, detto anche a Merdano, potrebbe, invece di farsi intervistare dalle Iene che poi tagliano, fanno eccetera, ci chiamasse, so che qualcuno lo conosce, ci chiamasse, siamo qui ad accoglierlo anche mezz'ora, tre quarti d'ora, mezz'ora. siamo qui disponibilissimi con Marciano, detto da noi in senso ironico, Merdano, perché secondo noi sparge della merda, ma la merda è anche buona. Ci sono persone che hanno fatto delle sculture, delle opere d'arte con la merda. Qual è il problema della merda? Se tu guardi le mappe della diffusione del 5G in Italia e poi vai a vedere i focolai di cosiddetto dichiarato coronavirus in Italia, vedi che le due mappe sono sovrapponibili. Ah sì? Eh sì. è normale, è normale. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cosa cazzo vuol dire Davide che hai scritto 4 libri, hai scritto 4 libri? Pure Totti ha scritto 5 libri, che cazzo c'entra? Sì, però il caso più clamoroso di oggi è un altro. Voi sapete che Boris Johnson, il premier della Gran Bretagna, aveva un consigliere che si chiama Ferguson, il quale si è scoperto, era un consigliere non da poco, perché è quello che l'ha convinto a passare dall'immunità di gregge sostanzialmente alla chiusura, al lockdown. Dunque un consigliere importante che ha imposto il distanziamento sociale. Mentre imponeva agli inglesi il distanziamento sociale, il distacco, non bisogna incontrarsi, le solite cose. Meravigliosa quella. Cosa ha fatto questo signore consigliere? Si sbatteva vabbè, di nascosto, vabbè. Scopava. Andava dall'amante, dai, andava si sbatteva l'amante, diciamo, cosa faceva per l'amante? Ma cosa faceva dall'amante. Con l'amante? La quale amante era sposata con figli per giunta, quindi diciamo, ha infettato, vabbè, il potenziale di aver infettato altri nuclei. Non erano due single, no, magari, non erano due persone ma no, single. Ma lui era negativo, lui no, non ha infettato nessuno, lui era negativo. Tutti magari era, sì, che le sappiamo, sì, che le sì, sicuramente. Comunque la cosa fondamentale è questa: in Inghilterra, di fronte a uno scandalo del genere in cui il fautore, il teorico, il guru del lockdown, della chiusura, del distanziamento, in realtà sfugge a questo distanziamento, viola le regole e si va a sbattere l'amante sposata con figli, ma quello è un dettaglio praticamente non particolarmente importante. Ma no, ma che c'è? Ma che sei? Così perché uno non si può sbattere l'amante con figli? Non ho capito. Perché dalla tua religione è interdetto, non ho capito, è proibito. No, adesso. No, assolutamente, ma è un dettaglio in più che è giusto, no, però, dare, sì, a chi ascolta la trasmissione. Però veramente, cioè, tu pensi che l'adulterio in qualche modo sia una cosa negativa? Questa è una cosa che ti volevo chiedere da in tempo. In alcun modo, assolutamente no. Perché assolutamente ne avrei no. da dire io, ne avrei no, da dire sull'adulterio. Questa è una trasmissione in cui si arriverà fino in fondo, si arriverà fino in fondo nella diffamazione. Basata sui ricatti e sulla diffamazione. Io sugli adulteri. Come nella storia della tanto ti sei già divorziato, ti sei già divorziato, ti sei già divorziato. Perché io adesso svelo tutto. Non farmi parlare, perché io adesso pongo una questione tua sul tavolo. Non farmi parlare. Senti come cambia il tono della voce. Senti come cambia. Perché vuol dire che hai qualcosa che nascondi, no, ma io lo racconterò. Io da qui a venerdì qualcosa dirò. Stai molto attento. Ma che trasmissione è quella in cui due giornalisti? Perché comunque sempre c'è. Ti sei già divorziato? Che cazzo vuoi? Ti sei già divorziato? Tu hai chiesto. Tu sei, diciamo la verità: sei stato un adultero? La domanda diretta: sei stato un adultero, sì o no? Di la verità: sei stato adultero? Te lo richiedo per l'ennesima volta. Dammi una risposta. Sei stato? Hai consumato rapporti sessuali durante il matrimonio? Stante il matrimonio? Insisti nel dire di no? Insisti nel non mi tentare, insisti nel dire di no. Tanto hai già divorziato. In alcun modo. Non hai avuto rapporti sessuali con altre donne durante il matrimonio. Quello in alcun modo. In alcun modo. E il fatto che tu voglia mettermi in difficoltà, evitando la discussione di fondo, cioè quella di Libero, del tuo amichetto Feltri, al quale scrocchi pranzi e cene, e delle tue amichette, di cui parleremo veramente tra poco, su cui invece c'è molto e molto da dire. Ma sei completamente pazzo. No, su cui delle famose amiche, ma che quello se ne parla da anni, delle dai, famose ma abbiamo nomi e cognomi, comunque, che ragazzi, finalmente ma quando possiamo ma quale nome e cognomi, che cazzo dici? Allora ragazzi, io allora, li ho qua, ma che hai qua, cosa hai qua, non io hai nulla, siamo li ho qua. E allora, adesso possiamo anche introdurre, diciamo, solo il nome di battesimo, almeno di una delle più recenti, diciamo, almeno sarebbe? No, possiamo quale, almeno di dire il nome di una delle più recenti, possiamo anche se ha un ruolo nelle istituzioni italiane. Cane, possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Ma chi è? Un, diciamo che è un deputato della, possiamo dire? Ma di che possiamo parli? Dire il nome? E cambia il tono della voce. Possiamo dire cambia? Il nome? Possiamo fare la macchina? No. De- c'è per piacere il meccanismo che può dirci quando il tono della voce diventa imbarazzato? Vogliamo fare il nome di questa è una trasmissione, deputata? È una possiamo trasmissione fare il nome finalmente o no? Ma lo possiamo fare liberamente questo nome? Possiamo dire solo il nome di battesimo? No. Possiamo? Ma non è vero nulla. Ah, no, dici no e ti rispetto. Mi dici no, ti rispetto e non lo faccio. Non lo faccio. Allora, mentre il consigliere di Johnson sta tremando all'ascolto mentre in questo il momento, consigliere di Johnson si dimetteva, mentre il consigliere di Johnson si dimetteva, altro che buona in fede. Italia, in mentre il consigliere di Johnson si dimetteva, in Italia il capo di gabinetto di Zingaretti, il partito delle regole, sì, sì, sì, il capo del Partito Democratico, prima pazzesco, del 4 maggio, cosa faceva? Una specie di grigliata una con grigliata, tanto di ostriche, specie, una grigliata sul grigliata, tetto, una sul grigliata tetto sul da tetto amici, con la musica, da amici, con la musica, tanto che i vicini si sono pure incazzati. Questo è il capo di gabinetto, il signor Zingaretti. Abbiamo un contributo di chi? Il signor Giordano. Abbiamo il signor Giordano, ci ha inzuppato il biscotto, naturalmente. Il signor Giordano ci ha inzuppato il biscotto. Che non parlava mai delle vicende che riguardavano Berlusconi e giustamente oggi parla del capo della cosa di Zingaretti. Io condanno il capo della segreteria di Zingaretti, così come però sì, ma perché da una parte ci sono le dimissioni perché uno in fin dei conti si è fatto la chiamata con l'amante, cosa che secondo me ha fatto benissimo a fare, anche se beh, i due fatti non sono paragonabili, diciamo, uno è il capo della, beh, quello l'hanno multato, il capo della segreteria di Zingaretti è stato giustamente multato. Ma uno si dovrebbe dimettere, si dovrebbe dimettere dal suo incarico. Ma non è quello che aveva scritto. Sei tu che fai le regole, come no? Sei tu che fai le regole, sei tu che fai le regole, in parte fai le regole. Ma comunque è stato giustamente multato. Ma si dovrebbe, ma grazie a cazzo, ma si dovrebbe dimettere, le dimissioni ci vorrebbero, le dimissioni. Perché da una parte uno si dimette e l'altro invece resta e paga la multa che manco la pagherà? Uno è il capo di tutti i virologi inglesi. Dai, su quello che ha scritto la regola. Non si possono fare feste e poi ci sono invece quelli che le fanno. Ma non sono solo i rom e gli immigrati, anche per esempio il capo di gabinetto della Regione Lazio. Quelli delle regole. Quelli delle regole che vanno rispettate. E lui addirittura è uno di quelli che le regole le fa. Se ne lo rivendica anche io, sono questo capo di gabinetto. Io le regole le scrivo. E siccome le scrive, si pensa forse è in diritto di non rispettarle. Per cui il primo maggio stava a fare la magnata a base di ostriche. Cioè prima del, maggio, del 4. Primo cioè, maggio, prima del 4. In epoca di lockdown. Di lockdown totale, quando non si poteva neanche. E lui stava a fare la magnata con ostriche, crudité. Prima ho fatto vedere tutto il menù, un bel menù. Adesso lo facciamo anche rivedere. Un bellissimo menù sul terrazzo. Abbiamo provato a chiedere spiegazioni a Ruberti. Ti ho già detto tutto, anche se trovate la dichiarazione, quindi la mia versione l'avete già, no? Non credo che debba aggiungere nulla. Ma era un pranzo di lavoro o no, dottor Ruberti? Ho detto, basta che leggi la dichiarazione e trova tutto. Da una parte dimissioni, dall'altra vabbè ho detto tutta la dichiarazione. Ho sentito la prova, eri ospite da Giordano ieri, ho fatto duetto con signor Giordano, ci siamo rimbalzati, quello più di sinistra chi era? L'armadio, quello più di sinistra chi era lì? La sedia era quella più di sinistra, ancora con sta sinistra, destra, sinistra, destra, con queste cose, la sinistra, destra. Comunque la Meloni mi segnalano che è pronta alle barricate sulla questione della sanatoria dei migranti, siamo pronti alle barricate. Fa male perché avrebbe dovuto farle anche quando governava con Maroni, visto ancora, che fece la più grande sanatoria. Certo, scusami, la più grande e unica sanatoria. Ma tu veramente pensi che in questa situazione sia utile regolarizzare i migranti irregolari? Ma non è buonismo, lo chiedono le associazioni di categoria, Confagricoltura, la Coldiretti, allora, lo chiedono gli italiani che siete all'ascolto. Il signor David Parenzo, non lo so chi lo chiede. Confagricoltura, tu non sei il portavoce di nessuno. Ma non basta leggere, non sei basta studiare, basta leggere che c'hai le cartuccelle, come dici te, c'ho le cartuccelle, vuoi le cartuccelle? Allora, in questa situazione drammatica dove gli italiani sono in grande difficoltà e saranno in grande difficoltà, i soldi che non arrivano, le banche, i prestiti, le regole assurde, ecco i 600 euro, gli 800 euro, secondo voi la priorità quale dovrebbe essere? Regolarizzare i migranti? Regolarizzare 600.000 migranti? Per la salute nostra Parenzo e loro? Dice Certo. Sì. Parenzo per due ragioni. Sì. Uno lo chiedono le associazioni di categoria. Ma no, non due, sei il portavoce. Per la loro. No, basta leggere. Fammi sentire la Meloni, dai. Per loro, fammi la loro salute e per la nostra salute. Giorgia. La tua amichetta, sì. Potrebbe esserci anche un'altra cosa, onorevole Meloni. Potrebbe esserci la sanatoria per gli immigrati. Le risulta? Io spero di no. Siamo pronti a fare su una cosa del genere le barricate. Le barricate. Sarebbe una assoluta e totale follia. Quella che fece Maroni. Da parte del governo con la scusa di voler aiutare il mondo agricolo. Anche nel mezzo della pandemia, del disastro, della milioni di persone, di italiani che stanno scivolando nella povertà, di un ceto medio che rischia di non esistere più, allora non frega niente. A loro interessa solo di regolarizzare gli immigrati clandestini. Gli italiani regolari, quelli no. È Giordano Muto. Ma perché nessuno di voi le ha fatto una domanda? Onorevole Meloni, quando lei era dentro l'Alleanza Nazionale, come mai Maroni fece la più grande sanatoria? Onorevole Meloni, tu dove eri nel camerino con la tua amichetta, ma anche di questo parleremo. Della deputata parleremo ovviamente Ornella. Nel corso delle adesso prossime trasmissioni. Adesso ti sei piccato perché ti ho dato forse dell'adultero. No, ma su una cosa passata. Voglio dire di più, dove eri tu a contrastare, a fare delle domande, non Ornella a contrastare. Milano, dov'è il tuo giornalismo con la schiena diritta? Siamo arrivati ormai a un livello, ragazzi. Pazzesco. Allora, io primo devo dire che adoro Cruciani per il semplice motivo. No, ma è vero, certe volte è troppo esagerato, dimmi, giusto. La cosa che adoro è che se ne frega di quello che pensano gli altri, cosa che ho sempre fatto io nella vita. Molto sono bello. Una vecchia signora, vecchissima signora. Sì, io c'ero quando la Zanzara è nata come giornale, quindi... Vabbè, allora Ornella, che cosa vuoi dire, amica mia? Dimmi. Allora, io ho telefonato per due cose. Primo, una cosa scema. Dico la cosa scema per prima, così abbiamo un pochino più di tempo. Vai, no, non abbiamo tempo, però vada veloce. Allora, la cosa scema è che mi dispiace che tu permetta a tante persone di insultarti in modo così volgare, io godo di questa roba qua. Cioè, quando mi insulti, aspetta, danno fastidio a me, no, ma se non danno la prima cosa. No, aspetta, scusa, Ornella, ti devo fermare. Allora, no, qui con questa trasmissione rispetto non esiste. Questa trasmissione ha bandito la parola rispetto, tant'è che gli stessi conduttori, uso un'espressione aurica, si insultano a vicenda, si diffamano a vicenda. Tu hai avuto quello, tu sei stato adultero, tu ti sei scopato quello, tu ti sei scopato questo. Adesso arriveremo a praticamente quello che ha combinato Parenzo nel passato, ne so di ogni tipo. Gottardo non è nulla. Gottardo è un ammasso di carne che cammina su due scarpe e con una lingua lunga che non ha escretiriata già come parla. E pensa a quelli che ascoltano la tua musica di merda come si devono sentire. Sentire. Vergognati, uomo di merda. Stai zitto, uomo di merda. Stai zitto, uomo di merda. Stai zitto. Mi lasciate solo in tasto, monna nera. Almeno la mia voce non fa cagare come la tua quando canti, poveraccio che non sei altro. Senti che voce del cazzo che hai. Si sta d'infama, mo, si sta d'infama. Senti, Cruciani, se tu lo butti fuori sta merda, penso io a buttarlo fuori. Mi dà fastidio perché contro gli italiani. L'amore senza parole è un lungo meschino. Spargi solo odio e note del cazzo. Poveretto, che spargi solo odio e note del cazzo. Ragazzi, voi avete mai capito quanti coglioni ne ha questo Donald Trump? Questo sì che è un vero leader, questo sì che è un vero uomo. Questo sì, ragazzi, ci vorrebbe un Donald Trump anche in Italia, in Europa. I cinesi vanno eliminati tutti, affanculo tutti i cinesi, avete rovinato il mondo intero e continuate a dire no, no, no, va, andatevene a fare in culo. Se volete eludere le forze dell'ordine e andare a trovare i vostri amici o amico, basta dire che siete froci. I clandestini insegnano. I cari amici clandestini insegnano, basta dire che siete froci e andate a trovare il vostro amico tranquillamente. Ciao ragazzi! E ricordatevi che la Zanzara è l'unica trasmissione al mondo che quando la pronunci puoi dire la Zanzara. La Zanzara. Provate a dire 8:30. 8:30 non viene. Provate a dire fuori dal coro, non viene. Invece la Zanzara. La Zanzara. Cioè prendo lo straccio. Quindi io sono, poi sono fissato, sono proprio fissatissimo, io sono un gay mancato, guarda. Vedi qua, passo, mangiapolvere, qua, detto? Pulisco i cimeli di Sanremo. Vabbè, insomma, dai. No, scusa, hai detto un'altra cretinata, però, povia prima. Cosa ho detto? Che passo il mangiapolvere? Io spero solo questo, però qualcuno ha sentito qualche altra cosa. No, vabbè. Che? No, diciamo che sento il delay mancato. Allora, la voce era quella di Povia e poi c'era Caterina Balivo. Io non riesco a capire dov'è lo scandalo, cioè perché qualcuno si è scandalizzato sui social, sull'internet, naturalmente la gente comune non fotte un cazzo ovviamente di quello che ha detto Povia in una trasmissione televisiva. Povia a un certo punto stava pulendo i mobili, la casa sua, in collegamento con la trasmissione della Balivo, e ha detto sono un gay mancato, collegandosi a un po' uno stereotipo, diciamo, a quella sciocca canzone che ha fatto tempo fa, in cui, se non ricordo male, ma che c'entra la canzone? In questo caso c'era, strimpellava Luca, era gay, ma adesso no, sta con lei. Ma no, ma quello non c'entra. Povia, sì, quella era di Povia, sì. Un concentrato di luoghi comuni e puttanate. No, ma in questo caso era sul fatto che chi pulisce in casa, chi pulisce i mobili, è secondo lui un uomo che pulisce le cose di casa, è un po' effeminato. Ma non ho capito qual è lo scandalo, francamente. Vedo che qualcuno si esercita in una critica stereotipi. Ti ho detto, lui ha fatto una battuta nelle canzoni, ma ha fatto una battuta, è frutto della stessa sua cultura, omofobia. È la sua stessa, è quella roba lì, è la sua battuta, la sua canzone spiega bene qual era la sua visione del mondo in materia, diciamo. Dai, su, ma uno fa una battuta, te la ricordi? Ma quello era sulla perché quello vive di luoghi comuni e ha applicato lo stesso luogo comune che soltanto i froci puliscono casa. Ma non è uguale, è uno scandalo. È frutto di quella cultura lì. Ma non è scandalo, è frutto di una cultura. Sei incredibile. Quella canzone. Fai ascoltare quanti luoghi comuni ha quella canzone. Non te la faccio ascoltare. Non te la faccio ascoltare. Come una vergogna alla corte. Cioè, prendo lo straccio. Quindi poi sono fissato, sono proprio fissatissimo. Io sono un gay mancato, guarda. E va bene, d'accordo, lui pensa che i froci puliscono casa, che i froci si mettono a pulire casa, non la fissazione della polizia. Questo è frutto della sua cultura, sì, anzi, ho capito, ma lo vuoi arrestare? Lo vuoi portare in tribunale? Lo vuoi denunciare? Cosa vuoi fare? Lo vorrei sputtanare? Gli vuoi come mettere si è autosputtanato da solo? Dai, no, nessuna catena. Fai sentire la canzone ricca di luoghi comuni. Ma non la voglio far ascoltare. Falla sentire, la gente deve sapere quel concentrato di luoghi comuni diffusi da questo pseudo cantautore. La cosa, sei incredibile. Giordano innanzitutto prende i commercianti che sono in difficoltà. Giordano, poi Giordano è la trasmissione di riferimento. E li trasforma in feticci. Senti. Diciamo hai un locale in cui hai spese piuttosto elevate, Ma che cos'hai lì alle spalle? Che cosa c'è? Alle spalle abbiamo le mutande. Guarda, ne abbiamo qua, che è il nostro simbolo ormai di ristorazioni, di rinascita, pubblici esercizi. Siamo ormai in 5.000. Abbiamo scelto le mutande come il nostro simbolo, perché questo governo ci ha lasciato in mutande. Ci ha lasciato in mutande piene di palle che ci stanno raccontando. Anche questo servono queste mutande. Non so cosa dire. Va bene, adesso ritorniamo da te, Mauro. Andiamo invece da Sonia. Sonia, parrucchiera di Latina. Eccoci qua, buonasera. La grande carrellata di Giordano. La grande carrellata delle persone in difficoltà. È un grande format. Prendi i poveri, no? Ma non ci hai mai pensato tu a prendere i poveri. La realtà, i poveri. Troppo poco, forse, bisogna prenderli. Quando è che bisognerebbe inquadrare i poveri, secondo te, Carlo? Quando è che bisognerebbe prenderli? Non così, troppo poco così. Naturalmente andrebbe fatto un racconto in presa diretta, naturalmente, in tutti i luoghi del disagio, della disperazione, naturalmente, ma va fatto vedere, naturalmente, le mense dei poveri, troppo poco, ormai le vediamo ormai ogni giorno in televisione, quando Santoro li faceva vedere, lì sì era innovazione, naturalmente, lì sì era verità. E adesso cosa bisogna far vedere? Non ho capito. Naturalmente il lavoro è molto complesso. Naturalmente bisogna andare nel profondo della povertà, del disagio, sì, ma cosa e laddove la non televisione, c'è, laddove cosa non si vede, va creato, naturalmente, va presa una persona e ridotta in assoluta povertà, naturalmente, va presa, naturalmente. Quando tu non trovi, naturalmente, le persone da intervistare, ci sono, perché naturalmente la vergogna prende il sopravvento sempre li puoi portare in televisione, molto difficile, naturalmente, sì. Allora si fa un esperimento sociale, prende una persona Renzi. E la si riduce in povertà assoluta. Naturalmente, capito? Questa è l'idea, naturalmente. Perché purtroppo io non capisco perché il povero non si mostra, il povero ha dignità. Cos'è la dignità? Dai, c'è la televisione, le telecamere che ti inquadrano, il racconto. No, molto difficile, naturalmente, ormai trovare davvero un povero. Sì, certo, allora naturalmente si trovano degli sbandati, naturalmente, i clochard, banale, lo trova chiunque. Già visto, la televisione basta, crea anche a porta a porta vanno i barboni, ormai non funziona. E invece, naturalmente, la televisione deve mostrare il dolore, naturalmente. E quindi laddove non c'è, lo si deve creare. Apposta, creare il povero. Dai. Però esiste, naturalmente. Esiste, ma tu lo crei, naturalmente. Ma c'è. Non è un artificio, naturalmente. Dai. Andrea da Pesaro, vai. Andrea da Pesaro. Eccolo. Dimmi. Senti, io sono turbato perché a me sta storia che i mafiosi gli arresti domiciliari mi fa andare fuori dai sacramenti. Come non ci chiama un paese che permette queste cose? Perché siamo un paese del cazzo in cui gli assassini pagano molto poco. No, i mafiosi pagano, non è che non pagano. Se tu dici che è un paese del cazzo, andiamo in tribunale insieme, io dico che è un paese no, di merda. Ma Andrea, il punto è questo: siccome la questione è molto semplice: se uno ammazza una persona, però, se uno ammazza una persona, probabilmente fa pochi anni di galera. Ne fa pochi di galera. I mafiosi gli anni di galera li fanno, per carità. Però nelle pieghe dei regolamenti italiani, delle leggi, ma in questo caso trovano sempre il modo, si trovano. Senti, scusami, fai dire una cosa? Sì, dimmi. Io quando l'altra sera ho visto quella trasmissione di Giletti in cui c'era Catello Maresca, che sono 16 anni, che sta sotto scorta perché ha messo in galera Zagaria, e c'era quell'altro improbabile capo del DAP che poi si è rimesso il giorno dopo, due giorni dopo, ho avuto istintivamente un forte attacco di simpatia per Maresca. Gli ho mandato una mail di supporto, mi ha risposto, che io non mi immaginavo di sicuro, e mi ha detto... Bisogna, io gli avevo detto cosa pensavo, che ero con lui, ma insomma che non ne valeva la pena. Ho detto no, invece bisogna combattere, resistere, se volete ve la mando. Certo. Però due giorni dopo ho letto un'intervista a Catello Maresca, in cui Catello Maresca, che ha le palle, ha detto è finito tutto, me ne vado a casa. Perché? Allora, ecco, cosa c'era sull'intervista. Sì, no, è finito tutto. È finito tutto, nel senso che non si può fare un cazzo. Esatto, non si può fare un cazzo se c'è Zagaria a casa, a casina sua. noi siamo furibondi. Ma quello che, quello che ha sciolto nell'acido, quello che teneva, siamo, scusa, quello che teneva. Ho 60 anni e ho i peli dritti. Cioè, colui che, ragazzi, è a casa, colui che è malato, quello che vuoi, 85 anni. Deve andare via buona fede, non perché non sa distinguere il dono dalla colpa, che sarebbe. Ma già perché alla fine qualcuno deve pagare, dici, per questa roba qua? E chi, se no? E chi se no? A parte di Matteo, che mi piacerebbe sapere. Fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Io potevo essere stipendiata. Che voglia di cazzo, mamma mia. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Ci sono migliaia di persone che muoiono di fame, partite IVA che non hanno i soldi per andare a fare la spesa e Parenzo sta là col maglioncino di Trussardi, di Ralph Lauren a fare l'aperitivo sul suo terrazzo. Sei un ipocrita, ti giuro, mi fai veramente schifo. Quanto mi fa ridere Parenzo che quando gli si dice che non è laureato, lui ti dice: ma io ho superato il test agli ordini dei giornalisti, sovranista, fascista, io ho scritto 4 libri, compa. Pure il demone scimmia ha scritto i libri, ma non è che per quello allora sei migliore di tutti, anzi il demone scimmia è molto più intelligente di te, compare, avrà perso qualche neurone per strada, ma è molto comunque più intelligente di te, compare. Ciao ragazzi. Oh, ecco Mauro. Stavo guardando qui fuori dal coro, sì. E chi mi annuncia quello zerbino di Mario Giordano? Il grande Giuseppe Cruciani. Ma grande cosa? Che è un coglione del caculo, sto pezzo di merda. Stranamente ce l'ha con me oggi, beh, ormai è un periodo però che ce l'ha con me. Aspetta, guardava quella trasmissione, ti dà l'idea, no? Del pubblico selezionato. Ti dà l'idea, ti dà l'idea. E allora non sono stato capace di tacere. Allora gli ho mandato un messaggio al WhatsApp della Zanzara. Perché proprio quello non sono riuscito a non reagire. E mo ve lo mando. Incazzato nero, perché quel deficiente, quel figlio di puttana bastardo, ha prolungato il 15 giugno. Ma perché questo? Perché stanno preparando il chip sottocutaneo che si metteranno dentro con il vaccino finto. Sappiate, non ho capito questo. Che quel laboratorio a Wuhan non è cinese, sì, è americano. No. L'ha comprato Bill Gates insieme a Rothschild e a Soros. Ma non è vero. Cioè, ha messo insieme Rockefeller con Rothschild. Soros, che hanno comprato il laboratorio a Wuhan. No, cosa incredibile. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo, senti, veramente. Senti come è stato propagandato il virus, come è stato diffuso il virus. Senti. Perché lei l'ha divulgato nel mercato di Wuhan. Chi? Liberandolo dal zainetto nel cubo di ghiaccio. Zainetto? Ci sono telecamere che l'hanno filmata. Ma quelle di sicurezza? Ma chi? Una bella fantasia. Quella è stata in Francia, poi è stata, mi sembra, a Bruxelles, è stata in America, e questa qua se l'ha portata dietro. Ma sono sicuro che non torna più in Cina quella lì. Perché se torna in Cina, prima la impiccano, poi la processano. Ma di chi sta parlando? Di chi parla? Di chi parla? Sta peggio di prima però, eh. Sì, però la dentiera mi sembra che abbia dato qualche successo. Beh, la dentiera, però, diciamo, era messa meglio. Negli ultimi anni le follie sono aumentate molto, sì, però, molto, molto, molto. Questi sono. Adesso che potete ben capire perché li ammazzava, perché sapeva che razza di merda sono. Ma chi? Questi qua si vogliono schiavizzare, e se non ci ribelliamo, cioè io mi ribello, io non mi farò fare nessun vaccino finto, perché quello che ci faranno saranno un finto vaccino, perché il vaccino del coronavirus non esiste, anche perché non esiste il coronavirus. E poi l'annuncio finale, ragazzi, c'è qualche speranza, l'annuncio finale di Maurone. muore a 26 gradi, ne abbiamo 30-32, mi spiegate come fa ancora a essere vivo? Come fa, la gente non si informa. Chi? La gente, gli ha dato il 54% di fiducia a Conte, ma ci rendiamo conto gli italiani quanto sono scemi e deficienti? Cioè ci sta prendendo per il culo e gli danno pure ragione. Questo è un paese di merda popolato da capre ignoranti. Io non vedo l'ora di andare da questo paese. Ma dove vai? Perché io non ce la faccio più star qua, non ce la faccio Valenzo, più. Valenzo, c'è l'annuncio finale. Non ce la faccio più a stare qua. Non ce la anch'io. Faccio più a stare in anch'io. Questo anch'io. Su questo la pensiamo uguale, anch'io. Ma come anch'io? Anche tu, no, qua in questa trasmissione intendevo. No, qua. No, Roberto da Varese, vai Roberto, dimmi. Pronti? Dimmi. Ecco, su Libero non dice niente. Vabbè, inizia la trasmissione, stavi dicendo non è possibile regolarizzare 600.000 irregolari perché... No, non legale. Dico che non è possibile, perché non farlo prima? Cioè, perché non fa, a parte che non tutte le associazioni di categoria, come dice Parezzo, sono favorevoli. Perché, no, perché non farlo prima e fare invece adesso? Cioè, capisci che è tutta perché una follia. L'emergenza c'è stata, perché i campi lo dicono loro stessi, sono pieni di frutta e verdura non raccolta. La giustificazione che darebbe Parezzo, che dice li regolarizziamo perché lo vuole un'associazione. Ma di non è vero, altri non lo no, non solo, vabbè, ma non allora, solo per allora questo, Roberto... perché è un bene per loro e per noi che escano dalla clandestinità. Ma è questo molto vale semplice, sempre. Anche vale... per un problema, certo, problema, ma in questo momento di salute pubblica in particolare. Il problema è questo, Parezzo, è questo qui. Non è che perché un'associazione di categoria che è un mucchio di privati chiedono di sanare che danno lavoro però scusi sono quelli che poi fanno i contratti questi qui sono sì, quelli che no, poi fanno i contratti bene, alle persone non no non va bene fare lavorare la categoria non può pretendere che venga sanato un reato ma quale reato vabbè chi è utile non ma va bene Alberto dalla provincia di Monza vai Alberto Alberto dimmi vabbè niente Maurillo Pordenone Maurillo come si chiama questo qua Maurillo dimmi. Sì, sono io, Maurilio, però se c'è un'altra persona da Varese, aspetto volentieri. Per no, no, vai, dimmi, non c'è educazione in questa trasmissione, c'è grande maleducazione, c'è grande maleducazione. Figurati, figurati, ti ringrazio. Innanzitutto un sacco di complimenti per questa trasmissione che soprattutto... Non ce ne frega un cazzo dei complimenti, non ce ne frega un cazzo dei complimenti. Mi fa sentire ancora peggio, allora, mi fa sentire ancora... Allora, saltiamo i convenevoli. No, ma saltiamo tutto, saltiamo tutto. Io sono rimasto un po'... contento dal suo intervento Giuseppe che poi ha fatto in televisione ieri subito dopo la trasmissione che è andata in onda qui in radio. Cioè, che cosa è successo? Che cosa ho detto? Il problema è che lei comunque sia si dipinge non quello che ha detto, quello che non ha detto. Ma che cosa avrei dovuto dire? È no? Ma è un po' strano dipingersi satiro, un po' divinità radiofonica, un po' stronzo in radio e poi andare in televisione a far la valletta. Ma la valletta di chi? Ma quale valletta di chi? Quello è una trasmissione di Mario Giordano. Mi ha interpellato però, su alcune cose, punto e basta, mi sembravano abbastanza evidenti, lo scandalo del capo di gabinetto. Oggi, e allora sì, qual ma è? Se lei ha cominciato la sua trasmissione radiofonica questo pomeriggio dicendo ah ma quello che dice la Lega, quello che dice Giordano va tutto bene, in fin dei conti ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Certo. Ma chi l'ha detto? Ma cosa dici? Io non ho detto che va bene niente, non ho detto che va bene niente. Manutengolo di Mario Giordano, manutengolo di Mario Giordano. Questo qua è veramente un coglione questo Maurizio, Maurilio, Mauri Minchia come si chiama da Pordenone. Sei veramente un coglione, io non ho detto che ha sei un coglione, io non ho detto che ha ragione la Lega, non ho detto che ha ragione Mario Giordano. Perché lo offendi? Senti amico mio, non ho detto che ha ragione la Lega, non ho detto che ha ragione Mario Giordano, ma non mi interessa, io dico che sei un coglione, punto e basta. Sembra strano, è la bova, è l'opinione tua. Ma che cosa? Sembra strano cosa? Alle patatine. Ma che cosa? Sembra strano che... A un certo punto, comunque sia Giuseppe, mi permetto di darti del tu. Ma dimmi cosa, mi devi dare del tu, ma su che cosa? Ma non si capisce quello che dice. No, si capisce molto bene. No, non si capisce quello che dice. E te lo spiego bene. Bravo. Nel momento in cui in questa trasmissione tu ti alleggi sempre a paladino di super che? Partes in ma io non sono super partes ma non è vero io dico quello che penso la parola super partes è una follia che non... nel momento in cui allora quello che pensi va verso il centrodestra. Ma chi l'ha detto? In alcuni casi sì, in altri no. Ma vai a fare in culo, Stefano dalla provincia di Modena. Vai a fare in culo, Stefano dalla provincia di Modena. Una riflessione. Ma vai a fare in culo. Questa, se non ascolti più questa trasmissione, sono contento. Se non ascolti più questa trasmissione, sono contento. Sono contento. Sono contento. Non hai capito un cazzo, non hai capito un cazzo di questa trasmissione. Se non la ascolti più, se non la ascolti più, sono contento. Stefano, ma sì, ma infatti ci sei anche tu che appartieni a una terza categoria, cioè dire quella dei coglioni. Ci sono anche persone che invece sanno quello che ascoltano e ci ragionano sopra. Ma quale ragionano se non hai capito un cazzo? Ma non hai capito nulla, niente. C'è una persona che poi va in televisione per una volta a far la puttanella. Quando ma la puttanella sarai tu, la puttanella sarai tu, la puttanella, la puttanella sarei tu, la puttanella, tutti quanti. Sei la puttanella, tu sei la puttanella delle cretinate. Ma non ho detto niente, questo è il problema, che non ho detto niente perché ho detto due cazzate, non ho detto appunto, nulla. Non hai detto niente, ma è un po' un peccato farsi pubblicità. Guardate, sto andando in questo qua, io ti giuro, questo qua ti voglio saltare addosso. Adesso gli salto addosso. Questo qua gli salto addosso. È lucido, ti sta mettendo sotto. Ti sta mettendo sotto ma, zanzara, ma quale zanzara? La trasmissione si chiama Fuori dal coro. Non conduco io, imbecille. Fuori dal coro. Tu non conduco io, dentro, imbecille. Non tu coro, ci stavi dentro e guarda, a pecora. Stare a pecora ogni tanto mi piace in alcune situazioni, posso dirti la verità. Però in televisione è brutto. No, no, in televisione no. Stare a pecora in alcune situazioni mi piace tantissimo. Ma in quella non era quello per cui secondo me ti avevano tu pagato, sei cioè un dare cretino. Un contributo. Tu no, non sono un cretino. Tu sei un cretino. Parte di quella persona. No, sei fai, fai parte di quel target molto lucido. Che non è né un molto lucido. Né ma molto chi lucido. Se ne perché che fanno? Ma perché che fanno di male i camionisti e le prostitute? Perché i camionisti non ragionano? Però, le prostitute non ragionano? Sei solo tu che ragioni. Allora che però, cazzo dici? No, dai, però ci sono delle cose su cui a senti, un certo punto ne possiamo parlare. A me non mi interessa, ma non mi interessa. Ma io ti do del tu, io ti do del tu. Come sempre sul triviale e ci diamo del tu e io sono io ti do del tu. Molto lucido. La puttanella lo dici a tua sorella. La puttanella lo dici a tua sorella, ok? La puttanella lo dici a tua sorella. Ma sai perché? Perché hai tradito un sacco di volte in cui ho ascoltato la tua trasmissione prendendo quello che dicevi. E allora ti sei sbagliato. Punto. Ti sei sbagliato. Ti sei sbagliato. Ti sei sbagliato. Io ieri non ho detto un cazzo di particolare. Ti sei sbagliato. Hai sbagliato trasmissione. Hai sbagliato persona. Non hai detto niente. Sei rimasto fare il culo in radio e poi andare in televisione. Ma questo glielo spieghi, ma glielo spieghi tu i format di che sono diversi da vita, glielo vuoi spiegare tu o no, invece tu di dargli ragione? Sì, no, sì, i format sono diversi, invece, però questo bravo ascoltatore ha posto una questione ma vera. Questo è semplicemente una questione un poveraccio, vera è semplicemente che merita un poveraccio. Di essere affrontata. È semplicemente la un questione poveraccio. È questa: essere il manutengolo di Mario Giordano, essere il portavoce, ciao, essere il fiancheggiatore, il fiancheggiatore. Incredibile, guarda. Allora è con noi. Che poi ieri avete parlato anche di me, mi pare. È a un con certo noi, punto, naturalmente, con Giordano, no? Uno dei più grandi giornalisti italiani, il direttore di Libero, Vittorio Feltri. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti voi. Che trionfo, ragazzi. La presentazione mi pare eccessiva in una giornata come questa. Certo, non però si può dire per te. Non si può dire per te, caro non Davide. Si non si può dire. Diciamo che e se uno dice ha fatto la storia del giornalismo italiano, ci può stare Vittorio Feltri. Se uno dice ha fatto la storia del giornalismo italiano, non ci può guarda, stare Davide. Preferisco Paretti. Essere ricordato per quello che sono piuttosto che come il direttore Feltri per i titoli che ha fatto. Mettiamola così. Mettiamola no, così. Sai, caro direttore, Davide oggi contesta, mi ha fatto una testa no, così. Ma non sono aspetta, l'unico. No, fai parlare perché sennò altrimenti sì, giù, butta carità, giù e poi giustamente si incazza perché non lo fai parlare. Allora, fai parlare allora si è incazzato oggi da stamattina che mi fa una testa così. Dice: ma hai visto il titolo di Libero? Hai visto che vergogna? Come si fa a scrivere in Italia 30.000 morti rimpiazzati con 600.000 migranti? Che vergogna. E ha zitto. E io ho detto: beh, caro. Caro David, è un giornale in cui ci sono due realtà fattuali, cioè in Italia che ci sono 30.000 morti e vogliono regolarizzare 600.000 immigrati. Mi sembra una cosa, caro direttore, assolutamente fattuale o no? Sostituzione etica. Fai parlare Vittorio. No, ma io quando faccio un titolo o suggerisco un un titolo, sì, certo. Penso, come posso fare per far incazzare quel coglione di Parenzo? E quando ne trovo uno che mi sembra adatto a questo scopo, sì, lo sì. metto. E devo dire che ci riesci ogni giorno. Devo dire che ci riesci ogni giorno. Devo dire che ci riesci ogni giorno. Ogni giorno riesci a tirar fuori una sciocchezza, una follia al giorno, e quindi questo. Però scusami, posso dirti una cosa, Davide? Allora, ci sono due fatti. In Italia i morti, 30.000 morti. No, ma smettila, e non spiegare, non spieghiamo le cazzate. Chiediamo scusa e basta. Non spieghiamo le cazzate, per piacere, perché se uno dice che gli elefanti volano e parte da un presupposto sbagliato, è chiaro che tutta la discussione la è folle, di, no? La risposta di Fetti. No, la risposta ma di non Fetti. C'è risposta. Gli elefanti volano, no. Ma scusami, Vittorio, dice volano, che questo titolo è una boiata. Tu ha detto spazzatura prima. Ha detto titolo ma pura spazzatura. Pura spazzatura. Fammi ma rispondere, certo, muoiono. Puoi scherzare sulle persone morte. Fammi rispondere. 30.000 morti sostituiti dagli immigrati. Ma che ma stai zitto un attimo, Vittorio. Porca, no, è una cosa incredibile. Non ho capito niente, perché un casino. Sì, ha detto che è una monnezza, una spazzatura, non si possono mettere insieme ma 30.000 morti. Ma come si permette di mettere di mettere 30.000 morti? Colpa mia. Come che è colpa mia? Ma cosa dice? No, ma cosa dice? Sono o non sono 30.000 morti? Sì, sono, ma cosa 30.000. C'entra con i 600.000 immigrati? Ma come si fanno a mettere insieme due cose così? Ma come se ci fosse una sostituzione etnica, come avete scritto? È un delirio quella roba lì, un delirio. Delirio non da niente, è una cosa fattuale. È fattuale, dai. 30.000 morti e adesso il governo vuole regolare 100.000 che vogliono essere regolarizzati, insomma, è un argomento altrettanto fattuale, diciamo, autentico, vero? Quindi cioè dov'è il problema? Cioè, non riesco a capire perché. No, ma Parenzo è una cosa incredibile. Perché Parenzo è nemico della realtà. Sì, nemico della realtà. Sì, nemico della realtà. Nemico della realtà. C'è una realtà: 30.000 morti e 600.000 migranti. Cioè, escono 30.000 persone, vanno nelle bare sottoterra, dov'è? Certo, e entrano. Che cinismo! Ed entrano. Che tu sei favorevole alla regolarizzazione degli immigrati oppure no, Vittorio? Mi sembra di capire di no. Ma mi pare che 600.000 immigranti da regolarizzare sono tutti clandestini sia una sciocchezza in un paese pieno di disoccupati che non trova lavoro. Quindi ma lo chiedono le associazioni di categoria. Fammi sentire, sempre interrompere. Ma per parlare sarebbe interessante indurre i disoccupati italiani a lavorare la terra, ecco, naturalmente ecco, pagati come Dio comanda, non 2 euro all'ora. Ma come cosa c'entra nel questo? Sud, come ma questo cosa c'entra? No, non ma c'entra, c'entra, c'entra che cosa c'entra? Regolari... Se non si trovano, se non vanno a lavorare, ma cosa c'entra? Intanto sono due problemi diversi. Primo, metterli in regola vuol dire salvaguardare la nostra salute e anche la loro, perché il fatto che uno viva in clandestinità diventa un problema. Certo, caro direttore, perché non tutti hanno la governante di colore a casa messa in regola come te, no? Come, come hai tu, regola, la governante di colore, la governante di colore, tu ce l'hai a casa e in regola. Evviva. E allora le negre, io spero che la governante ascolti la telefonata, così ti sputa nella minestra stasera. Io spero che ascolti la zanzara, così dice dilettole, ma perché, e te la porta. Ha detto perché che l'ha chiamata negra, ma se ascolta la zanzara e dice il direttore mi ha chiamato negra, io prendo, altro chiudo esempio, la porta di casa, Vittorio, e me ne vado. Vittorio, altro esempio di negazione della realtà. Altro esempio di negazione. Sì, certo, altro. Non è mica colpa mia se è negro, nel senso. Ma io, quando c'è lì in casa gli dici uè negra, mi porti la minestra, non ho capito. Quando sei in casa gli dici scusa negra, ho appena fatto il direttore di libero, portami la minestra. Non penso che tu gli dica così, non credo, mi auguro. Ma se non lo credi, perché gli dici sta cazzata? Scusami Vittorio, io voglio capire una cosa, riprendendo la vecchia polemica della settimana scorsa, su cui non voglio tornare, ma tu hai sentito quel sindaco Tutolo che ti ha dato del pezzo di merda, della testa di cazzo, che ti vuole prendere a calci in culo? Sono i signorini della sinistra, ma a me va benissimo, io li conosco, so che sono fatti signora così, sì, usano questo linguaggio un po' come Parenzo, e dopodiché signora, se tu gli diciamo rispondi a tono, allora ti danno dell'odiatore, del razzista, eccetera. Io non mi preoccupo. Cioè non vuoi portare in tribunale questo qua, no? Per carità, no, assolutamente. Io in tribunale non voglio andare né come imputato né come accusatore. Quindi io non faccio queste cose. Dicano quello che vogliono di me, a me non mi importa niente. No, la cosa incredibile, caro Davide, l'ho detta l'altra volta, è che secondo me molte cose che sono state dette su Feltri dopo l'uscita sui meridionali, dopo l'uscita sui meridionali, sono molto, molto, molto peggio di quello che ha detto Feltri. Se proprio uno deve criticare la cosa che ha detto Feltri, le critiche che sono state fatte, gli insulti che sono stati fatti ad personam, ma non in generale ai meridionali, no, ma anche pesanti. Ma sono il frutto di questo suo modo di parlare. Voglio... perché se tu dici a un negro, uno è giusto che si incazzi. Io sono il frutto degli insulti che ricevo. No, sì, tu vieni ripagato della tua stessa moneta, del tuo stesso linguaggio. Certo, perché se dici a uno negro, aristotelico, esatto, sei ripagato del tuo stesso linguaggio. Ma no, ma che linguaggio? Dire meridionali inferiori. Se uno scrive froci, culona, negro, eccetera, è chiaro che poi anche il suo pubblico e quelli che lo detestano si adeguano al suo linguaggio e gli rispondono di pari modo. Questo è il tema. Hai capito? È veramente come sente. Cosa ti prepara stasera la governante? Cosa ti prepara la cuoca nera stasera? La negra cosa prepara stasera da mangiare? Perché poi si può sapere o no? Che te cosa ne prega te? La negra. Se ne frega, coglione, ma che tu posso, una bentola a mangiare. Se, ma quale bentola? Perché è tutto chiuso, quindi non si può andare da nessuna parte. Cosa prepara la negra stasera da mangiare a Feltri? Sarei curioso di saperlo. Il couscous. Ti prepara il couscous? Cosa ti prepara stasera la negra? Il couscous ti prepara? Frega di quello che mangio. Ma sapere cosa gli chiede. Cosa ti prepara? Una bistecca alla milanese? Che cosa prepara? Non ha mai, scusami, io posso penso sapere, aspetta, ho il diritto di sapere io penso, cosa gli cucina la negra, come penso, la chiama lui io penso, a casa. Io penso che Vittorio non abbia mai mangiato un couscous in vita sua. Temo di te. Non so neanche che cosa sia. Il kebab l'hai mangiato? Buonissimo, è buonissimo. Ma che vuol dire mangio una roba? Io non mangio neanche perché la carne. C'è carne normale, cosa c'è di che? Io non mangio la carne, non sono mica uno come te che mangia la carne. Ma non mangia la carne, lì, non mangia la carne. Ma anche cruciale, ma niente, lì lo mangio la carne o no? Capito, ma gli involtini primavera, gli involtini primavera li mangerai? Gli involtini primavera, no, l'anatra laccata. Quelli li mangi tu nei ristoranti cinesi, sai che come certo. Li fanno i involtini, sentiamo adesso. Dai, mettono il nonno dentro. Mettono? Sì, ecco il nonno. Il nonno, cioè, dici, altro, il nonno altro morto. Razzismo. Ecco, altra certo, roba, altro luogo vivo. Comune. Se ci mettono il nonno vivo, sono uno scemo come parente. No. Negli involtini ci mettono dentro i cinesi, cioè questo è certo, il direttore Feltri. Vabbè. Come certo? Cosa dici certo? Come si fa a dire una bestialità simile? Che ci mettono le persone morte dentro? Come tu si fa a dire una follia simile? Prima di uno scarafaggio. sei veramente incredibile. Ma quindi torniamo al punto. Cosa cucina la negra stasera? Cosa gli hai ordinato per cena? Cosa gli hai detto? Ne frega, sei. Ma perché sei rabbia? Chi dirò tu cruciale? No, voglio sapere, ma voglio sapere cosa ti cucina. Senti, oggi sta facendo un po' di scandalo, Vittorio. Una battuta di Povia. Guarda, siamo veramente all'incredibile. Qui viene messo in croce. Non sa neanche chi ha Povia. Sì, è un cantante Povia, lo conosco. Allora, un cantante Povia che a un certo punto in una trasmissione televisiva si è permesso di dire una frase tipo: ah, sto pulendo, sto facendo le pulizie a casa, forse sono un gay mancato. Sono un gay mancato. Come se lui è un luogo comune, i gay pulissero, fossero un po' più, diciamo, sensibili alle pulizie di casa. Anche qui lo stanno massacrando, ma è una roba incredibile. Uno non può manco fare una battuta sui gay, sui froci, che viene massacrato. Vogliamo rivendicare soprattutto la possibilità di dire di pronunciare per l'ennesima volta la parola frocio? Lo vogliamo dire o no? Ma certo, poi frocio deriva dal latino, è un termine anche elegante. E poi ci piacciono i froci a noi ci piacciono i froci. Cioè a ma noi certo che ci piacciono, a me piacciono le persone o non mi piacciono. Esatto. Ci sono i froci che mi piacciono e i froci che non mi piacciono, così come ci sono degli eterosessuali come Parenzo che non mi piacciono neanche. Ma è una parola insultante frocio, come fa a non capirlo? Frocio, negro, come si fa? E lui fa anche il direttore, cioè lavora con le parole, lavora con le parole. Tieniti la tua natura buzzurra, esercitala anche in radio se ti rende, non pensare di essere superiore a nessuno. La Treccani, la parola frocio spiega certo che ce l'ho sempre avuta. Spiega, se vuoi leggere la Treccani vieni in casa mia che te la presto per l'hai letta poco, l'hai letta molto molto molto poco, perché alla parola neanche, non hai letto un cazzo. Ce l'ho e come alla parola frocio dice un caro oggi ragazzi bisognerebbe fare tu non hai mai letto neanche Pinocchio, se no userei una lingua migliore. Possiede, ragazzi, generalmente un corredo di parole tenute a vario titolo proibiti o sconvenienti. Posso dirti una cosa? Chi se ne frega da Trecani? Posso dirti una cosa? Oggi bisognerebbe fare l'elogio della Merkel e della Germania. Questo bisognerebbe farlo sul serio, perché hanno avuto le palle, il coraggio di decidere una data e di dire sì alla riapertura del campionato. Allora, Sono d'accordo. Bisogna dire, hanno i coglioni rispetto a tutti i tentennamenti italiani, le cose, i protocolli. Sarà mica di una priorità. Certo che è una priorità. Io immagino che il direttore vorrà vedere prima o poi l'Atalanta ricominciare a giocare al pallone, o no? E ma finire... certo, ma soprattutto voglio la domenica santificare la festa con il calcio. Ma sì, ma certo, ma sarà molto meglio. Non è una priorità quella roba. Ma come lì, non però, è una priorità? Calcio, ma salute pubblica sarà più una priorità. Mamma, i bar saranno una priorità. E dire cacciate alla razza. La ragazzi, per la priorità la salute. Questa cosa qua, la priorità è la salute pubblica. Ma chi se ne è la salute pubblica? Che cos'è la salute pubblica? Ma che vuol dire come espressione la salute pubblica? È semplicissimo. Ma che vuol dire la salute pubblica? È un'espressione molto molto semplice, mi pare. Non c'è ma è un'espressione banale. Un'espressione banale la salute pubblica. Banale, banale. Banalissima, io divento i papà dei pazzi. Allora sarà meglio la parola negro e frocio. Pensate. Ciao Vittorio, ti abbraccio. Salutami Palenzo, digli da andare a fare il culo. Sì. Va come bene, no? Direttore, sarà arrivederci. Saluto. E ricordatevi che Metallica è l'unico gruppo al mondo che quando lo pronunci ti viene da dire i Metallica! Metallica! Provate a dire Rolling Stones. Rolling Stones non viene. Provate a dire Iron Maiden non viene. Invece viene da dire Metallica! I Metallica! Miserabili! Luciani, la mia ragazza squirta quando dico Pope impostore. Pope impostore. I francesi hanno costruito il laboratorio di Wuhan e i francesi hanno pubblicato, e potete leggerlo, che loro hanno fatto il laboratorio. Loro lavoravano con questi splendidi scienziati cinesi. Quindi la base è un articolo francese. Il governo francese chiede un'investigazione. E la Commissione europea ieri ha chiesto un'investigazione. Il governo canadese e australiano hanno chiesto un'investigazione. E l'hanno fatto per questa stessa ragione. Per queste basi, il virus Concita, non è cominciato a Voghera. Cioè, sull'articolo... E come voi sapete, allora, all'inizio i dottori volevano avvisare il mondo sono stati arrestati. Questa è la ragione che tutti i governi hanno chiesto un'investigazione. È un tema importante, quindi ora vi chiedo di aspettare un secondo perché ci torniamo. Buonasera, siamo qui dalla pizzeria d'Amico. Hanno rotto i coglioni che volevano tutti i cartellini, una persona alla porta e tutte le madonne, stanno tutte qua. Il distanziamento del cazzo, eccolo qui. Distanziamento, sanificazione del locale, chiuso da 2 mesi, sa chi cazzo me l'ha infettata a me il locale, però va bene così. Mascherine, guanti, i sgabelli tirati su. Sono entrati 3 figli di puttana, perché non si tratta di essere carabinieri, che io li rispetti i carabinieri. Però quando uno è sbirro il nuovo sangue, erano tutti figli di pulla. Mia sorella si è abbassata la mascherina un minuto per dirgli a un cliente è prosciutto, perché non la capiva, ha fatto così, è prosciutto. Minchia, lei serviva senza mascherina, a Rusei Tomati lei serviva senza mascherina, hai capito? 280-0 di verbale. Quando uno è sbirro il nuovo sangue, perché bastava passarsi la mano sulla coscienza, il momento che è. Buonasera a tutti e viva le forze dell'ordine! Confermo e sottoscrivo che è dalle 7 di stamattina che sto così! Un attimo che ho fatto così! Alessio è prosciutto! Mortacci vostri! Non so si può dire sbirri alle forze dell'ordine così, dai, no. Su, come si fa, dai. Comunque questi qua giustamente sono incazzati perché è entrata la polizia, ecco, i carabinieri, la... giustifica, no, tutto, ma no, ma ragazzi, è giusto seguire delle norme, però non è che se tu entri, seguendo il racconto di questi qua, entri, vedi una che magari si è tolta da poco la mascherina, 280 euro di multa, quello ha fatto tutto a posto, ha sanificato, ha fatto, c'hanno le mascherine, magari uno ogni tanto se la toglie, non è che può essere incubo, dai, su pure sta roba qua, ma non si può campare così, ragazzi, non si potrà campare così, cioè è impossibile in ogni secondo, anche perché è controproducente stare con sta cosa attaccata alla bocca ogni 3 secondi, dai. Io sostengo di essere stato prelevato dalla CIA e dai servizi segreti. Ma questo lo sappiamo. Io lo sostengo ancora ad ora. E non mi interessa che Parenzo mi faccia la sberleffa e mi dica: vabbè, ma no, ma sfigurati, ma sei solo un pazzo, lo psicotico. Parenzo, un deviato. Vediamo. E mi sta deludendo molto anche Cruciani. Ma tra l'altro, fatto, io mi sta deludendo molto anche Cruciani. Perché? Anche Gottardo in maniera minore. Ma Cruciani mi sta veramente deludendo. Lì dietro ci sono sempre la solita cricca che vuole sterminare la popolazione. Ma quale cricca? E non c'è riuscita col terrorismo manipolato dall'Oriparo, anche possiamo dirlo chiaro, gli illuminati. Io ho letto in rete, io mi informo dalla rete, non è che mi informo, ma il terrorismo era stato finanziato dagli illuminati. E vi parlo dell'ISIS, non vi parlo del demone che fa i video su YouTube col passamontagna. Io potevo essere stipendiata. È incredibile, ragazzi, è incredibile. Francesco dalla provincia di Rimini, vai. Sì, ciao, pronto. Sì. Volevo ricollegarmi al discorso di Povi di prima, volevo chiedere... Grande Povi, sì. Secondo me è pazzesco che ci sia una polemica sterile su questo argomento qua, cioè adesso io capisco che il coronavirus abbia intasato le notizie negli ultimi mesi, ma alla più cassata stiamo facendo una polemica fuori dal normale, a me mi sembra assurdo. Ma no, ma ragazzi, ma è ridicolo, no? Assurdo, ridicolo, no, ridicolo. Ma infatti è una polemica sul web, sull'internet, su ste cazzate di televisione. Ma è pazzesco. Cioè, ma uno ha fatto una battuta, dice Parenzo, perché lui ha un passato di un certo tipo. Un passato ma di un Parenzo, certo ma Parenzo, tipo. Ma magari Parenzo, dopo lo chiamo pure. No, però, no, ma scusami. No, ma è un passato. Ha un modo di pensare, non un passato. E la sua forma di pensiero è quella roba, la sua visione del mondo è quella roba lì che ha espresso in quella orrida canzone. Ma tutto ha fatto una battuta. E quindi quella battuta è frutto di quel che lui davvero pensa. Ma cosa pensa? Che i froci o gli omosessuali sono più adatti ai lavori di casa? Si vive di stereotipi, ma ripeto, quella canzone che lui ha scritto dice tutto di cosa lui ma pensi. Ma quella era sulla così. Conversione di un gay, non c'entra niente peraltro. E quindi per cui... è la sua visione di cosa lui pensa dei gay, ma è perché, così. Ma perché lui ti dirà la stessa cosa? È tutto collegato, ma no, è tutto collegato. Ma è chiaro, è tutto, guardalo, chiediglielo. Tutto collegato, se glielo dai. E secondo me, te lo dice anche lui pensa quello, certo. Ma adesso te lo chiamo, Andrea da Firenze, dai. Andrea, dimmi, Andrea. Ciao. Dimmi. Ciao, ascolta, sempre ci avrei da dire un sacco di cose sul ministro lì della verità che c'hai accanto. Ma a proposito, lei, dottor Parenzo, è un ministro della verità. Ma non c'è nessuno, io non ho nessuna verità, io ho un punto di vista. Mi scusi, non ho nessuna verità, per favore, ho un punto di vista. Stia zitto. Non funziona. Zitto. A me non mi fa arrabbiare come gli altri. Con me non funziona. Io ho soltanto un punto di vista. Che no, dico, no. Perché quello se devo fare. Se lei avesse e, un punto e poi di vista, a fianco ebreo, al punto di vista provo a dare dei dati, dei fatti che lei può verificare. Dovrebbe ci sono dei fatti che non c'entra ebreo, non ebreo, non c'entra. Non c'entra niente, ma non c'entra nulla. Aggiusta, ci sono dei fatti e dei punti di vista. Lei li può verificare. Non c'entrano niente, essere ebreo non ebreo. Uno può essere ebreo, dire una cazzata o essere. Lo so, ma a proposito dei gay e della sodomia, mi piacerebbe sapere che cosa pensano gli ebrei della sodomia, non che cosa pensa Parenzo. Ogni religione ha le sue ogni religione ha la sua modo di vedere gli omosessuali. Ma, che vuol dire? Ma infatti, ma che stupidaggine, che banalità ha detto. Calma, che stupidaggine. Il punto di vista suo è quello personale, non è quello della religione ebraica. E io mica rappresento una religione, ma io sono appunto, me stesso, imbecille che non sei altro. Calma con le offese, calma. Ma che vuoi dire? Perché sei un misero. Ma che vuoi dire? Non ho capito, che vuoi dire? Questo. A a proposito, per chiudere questo, volevo dire che Parenzo si accomoda tutte le cose a pro suo. A proposito di fobia, a proposito di fobia, mi meraviglia, cioè mi meraviglia, no, mi constato che quando c'è Fobia che dice Luca era gay, tutti si scandalizzano perché non è possibile, perché guai a toccare i gay. Quando c'è chi Faone dice che è diventato gay, oh, finalmente uno che parla. Che stupidaggine, ma cosa vuol dire? Beh, la canzone ragioni, ha capito di che cosa si tratta. Io ho contestato il testo, il testo della canzone. Vada a vederla. Allora, eccoci qui col protagonista di una polemica di oggi, diciamo sull'internet, sul web, eccetera. Il signor Fobia, che saluto, buonasera. Ciao bellissimi, come state? Ciao, non c'è male. Allora, io voglio capire una cosa, ma è mai possibile che ancora oggi uno non possa fare una piccola battuta, una osservazione? No, stai zitto un attimo. Una piccola osservazione sul fatto, dici, stava pulendo casa, forse sono un gay mancato. Ma qual è il problema? Chi è offeso? Chi si offende? Fammi sentire, Fobia, dimmi. Cioè, tra l'altro, io ho esaltato l'immagine del gay che è pulito, sarebbe stato diverso se avessi detto mi piace vivere nello sporco, sono un gay mancato, allora sì che magari potevano attaccare, capito? No, sì, in più c'è anche questa roba qua, però sai che secondo Parenzo tu hai dato l'ennesima prova, certo, di dire uno stereotipo sui gay, cioè il gay, il frocio, diciamo, che fa le pulizie di casa, pulisce di casa, è quello che è poco maschio pulire casa, perché è poco maschio pulire casa, che è una stupidaggine. Cioè, io personalmente ho detto no, cavolo, io sono un gay mancato, perché mi piace essere corretto, preciso, tante mani, mi piace essere pulito, vesto anche con vestiti da donna. Ma perché i gay sono più puliti? Indaghiamo, cerchiamo di capire la cosa, perché i gay sono più puliti degli altri uomini? La causa gay non è in pericolo, Parenzo, tranquillo. No, no, ma nessuno parla di pericolo, mi interessa capire lo stereotipo. Ma io non sono gay, peraltro, quindi non ho di quello. Mi interessa capire lo stereotipo che tu utilizzi, cioè i gay sono più puliti del maschio tradizionale, sì, molto. Cos'è lo stereotipo? No, secondo lui, scusa, mi spiego io. Il stereotipo, il luogo comunista, il luogo comune. Basta con lo stereotipo. È una battuta, te lo spiego cos'è lo stereotipo. È una battuta frutto di quello che pensi davvero tu. Allora le donne si sarebbero incazzate perché io facevo le pulizie, mettevo mia mamma che cantava mamma sono tanto felice quando faceva le pulizie, ho detto qua mi diranno che sono sessista, non si può più dire nulla, dai, no, però ragazzi, quando la balivo te l'ha richiesto, no, tu però non l'hai ridetto perché ti sei forse hai pensato che fosse una mezza gaffa, una cosa del genere, no quando me l'ha richiesto ho detto ragazzi ma siete un ictus, ma siete fuori di testa. Ah, sì, no, ma scusami, è il classico, come abbiamo detto prima, stereotipo, c'è cioè un'idea preconcetta, però il problema è se uno gli viene di dire una battuta sul fatto che i gay hanno una fissazione, sbagliato, può essere sbagliato, ovviamente. È una rappresentazione farsesca. Sì, ma non è un'offesa a nessuno. No, ma non sto parlando di offesa, infatti è una stronzata, infatti è una cazzata, non è una cazzata. Fammi sentire un pensiero tuo. Che conducono uno stile di vita omosessuale, che sono tutti belli, precisi, tranquilli, ordinati. Appunto, vedi? Allora detto, ecco cos'è lo stereotipo. Bravo, perfetto. Ecco cos'è lo stereotipo. Personale, solo che Parenzo, tu conosci solo un termine, stereotipo. No, ma ha ragione, te l'ho spiegato, sì, cos'è? È un luogo comune, chiamalo come vuoi. Fobia mi ha convinto su questa cosa qua. Come quello che dice, mamma mia, hai tutti i capelli puliti, ma che sei frocio? Ma è una stupidaggine. Questo l'hai detto tu, e questo è l'esasperato. No, esasperato il tuo stupido concetto. Dimmi. Luca era gay, no? Dico, cioè, dare un significato diverso ad una cosa che non è. Per esempio, se io a Sanremo nel 2009 canto nessuna malattia, nessuna guarigione, perché dopo 11 anni c'è il Parenzo della situazione che dice che ho detto che i gay sono malati? No, ma al di là del fatto che l'hai tu non detto? No, non l'ho mai detto che sono malati. Il sottotesto di quella canzone lì. Non ce la fa. È il sottotesto classico di quella canzone. È il sottotesto evidente di quella canzone. Sei un pirlotto, sei. Allora, posso dirti basta leggerla. No, posso dire una cosa. Torniamo ad oggi. Lascia perdere una cosa di 10 anni fa. Guarda, mia madre mi ha voluto troppo bene. Un bene diventato ossessione, piena delle sue convinzioni, ed io ne respiravo per le sue attenzioni. Mentre viceversa, dice mio padre, non prendeva decisioni. decisioni. Cioè, lui dice, da questo strano rapporto della madre col della madre e del padre nasce un figlio, sì, un figlio gay, che è una follia assoluta. No, mamma mi parlava di sempre gay, male di papà, mi diceva di non sposarti. Luca era gay e adesso sta con lei. Gay non è nato, nel caso di Luca era gay, è diventato in base alla relazione sociale. Vedi che non sai leggere. È un comunque, al di là, ragazzi, al di là di questo, al di là di questo, tra madre e padre, la cosa di oggi, gay, la cosa di oggi è, la cosa di oggi è questa, che non si può dire nemmeno, non si può dire nemmeno che vieni assaltato. No, ma si può dire, si può dire che era stronzata, però. Ma nessuno l'ha messo in croce. Ma non è nemmeno da dire che può dire che ha detto una cazzata. Ma tutti quello che pulisce casa è gay. Si può dire, a un certo punto mi ha detto una cretinata, era finita lì, invece l'hanno ripresa. Appunto. Perché sul web qualcuno ha detto è una cosa medioevale, a parte che medioevo aveva degli spunti e delle sfumature belle, però se voi andate sul sito di Vieni da me Rai su Instagram c'è un plebiscito a mio favore per una stupidata del genere. Ma che vuol dire certo, plebiscito? Ma la gente è scema, che vuol dire non plebiscito? Questo, non è il punto, è che se nessuno ti danno pensa, vuol dire che hai detto una cosa intelligente. Pensa, nessuno pensa che dire, no, ma che, voglio dire che, non è che se, sì, se la d'accordo, gente gli dà ragione vuol dire che hai detto una cosa ma intelligente. Ma non ho detto questo. Se uno si guarda come si taglia le guarda come si taglia quello le unghie, la classica battuta è la battuta delle medie, mamma mia come ti sei tagliato le unghie, ma che giudizio, sei frocio, no, una roba di una bassezza inaudita, ero anche tranquillo, sorridendo. Scusa, ma l'ultima, ma appunto, perché è frutto cosa, della tua cultura, no, della tua sottocultura, vabbè, certo, vabbè, cultura, ma vai a cagare, no, stronzata, sottocultura, non scusami, cultura, Povia, sottocultura. Ti voglio chiedere una cosa, ma tu sei un po' complottista sul coronavirus oppure no? Cioè, ci sono un sacco di teorie del complotto, cioè, no, assolutamente no, secondo me devono avere sbagliato sicuramente qualcosa dalla Cina e lo hanno detto troppo tardi. Non sei di quelli che pensano il laboratorio, le cose, eccetera, nemmeno quelli quelli che pensano alla punizione. Articolo, è uscito anche un articolo sul Corriere della Sera che metteva in discussione questa cosa del laboratorio. Comunque sia, puntiamo un attimo alla soluzione. Anche la app Immuni, che molti si sono indignati, adesso ci controllano. Ma la se libertà funzionasse, magari, se funzionasse. A parte quello, ma è proprio l'idea del fatto che la gente non capisce che noi siamo già tutti controllati. Il mio telefono è controllato. Senza bisogno dell'Immuni. Senza mamma bisogno. Mia, ti prego, guarda. Ciao, caro. Ciao, ciao. Ti voglio bene. Ciao, pare. Ciao, pare. Cioè, prendo lo straccio. Quindi io sono fissato, sono proprio fissatissimo, io sono un gay mancato, guarda. Vedi qua, passo, mangiapolvere, qua, detto? Pulisco i cimeli di Sanremo. Vabbè, insomma, dai. No, scusa, hai detto un'altra cretinata però, Povia, prima. Cosa ho detto? Che passo il mangiapolvere? Io spero solo questo. Però qualcuno ha sentito qualche altra cosa. No, vabbè. Che? No, diciamo che sento il delay mancato. Cosa? La Lucia, io ho 30 anni, solo una volta ho beccato una ragazza che c'aveva il bosco. Beh, ti giuro, ho cominciato a leccargliela, mi stavano a venire conati di vomito. Cioè, io non so proprio come fai, sono sempre d'accordo con tutto, su tutto con te, ma su sta cosa proprio non so come fai. Viva il petto di pollo! Beppe, ma tutti questi discorsi sulla figa rasata, ma la volete smettere? Ma voi vi perdete il meglio della vita. La figa deve essere un cespuglio morbido, profumato, che tu vai lì con il naso, deve arrivare come Indiana Jones con la sciabola che si fa largo tra la vegetazione selvaggia per arrivare alla città perduta. E così con il naso sposti i peli della figa per arrivare al tesoro. Via! Da questo canale! Caro Parenzo, è con noi una persona che mancava da un po' di tempo in questa disgraziata trasmissione. E lei c'è ha... uno dei giudici della Corte Costituzionale tedesca? No, assolutamente. No. Anche se ha fatto il giudice forse in qualche trasmissione, ma soprattutto è una delle donne più poppute d'Italia, si può dire così, delle donne più poppute d'Italia. Francesca Cipriani, eccoci qui. Ciao a tutti, qui. Ciao, grazie. Cara Francesca. Buonasera a tutti. Buonasera, sono felice, signora, di essere buonasera con voi e con il vostro spirito. Senti, cara Francesca, ma sì, vogliamo ricordare un po' le tue misure, qual è stato il tuo ultimo ritocchino, perché altrimenti ho perso un po' il conto. Cioè, tu l'ho questo anch'io. Cioè, in questo momento le tue tette quanto misurano? 7, 8, 9, quante? Ragazzi, sì, sono 6 sulla sono 8 più o meno, sì, comunque 2 anni fa l'ultimo intervento. 8, sì. Sì, e non molto bene al momento. Ma non vuoi fare, quindi, non vuoi aumentare di grado? No. Quanti ne hai fatti in tutto di interventi, così per capire? 3. Tre interventi fino a raggiungere l'ottava. Per un costo globale di ma quanto? Che te ne frega te? Bisogna avere la calcolatrice, prendere, non mi ricordo, ragazzi. Ma secondo me te l'hanno regalato, secondo me te l'hanno un po' regalato. No, ma magari no, le ho pagate io. Le ho pagate io. Senti, più ma o meno, sì, più o meno 15, non so, bisogna fare il calcolo. 15-20 mila. 40.000 forse. Ah, 40.000 euro in tutto. Senti, Francesca, come stai passando questo periodo di coronavirus, lockdown, eccetera? Fidanzati, non fidanzati, da sola? Abbastanza, diventa un po' pesante adesso dopo 2 mesi a casa. Diciamo, dove l'hai passata? A casa, a Milano, in Lombardia. E a casa, a Milano, da sola? No, con mia madre. Con abbiamo madre passato insieme, quindi in compagnia, non da sola, però devo dire che io, essendo una spugna, assorbo tutto, sono una persona ipersensibile. E con le immagini forti che hanno comunque mandato giustamente i telegiornali di questi camion dell'esercito da Bergamo con le bare, io soffro di insonnia adesso che sono sempre sveglia e non sto molto bene, ecco, non la vivo bene. Senti, Francesca, dal punto di vista, come dire, tu che sei una prorompente, eccetera, ma dal punto di vista sessuale, come l'hai vissuto questi 2 mesi? Ragazzi, come sapete, sono single, lo ero prima, lo sono ancora, quindi anche 2 mesi in casa non ho avuto modo di socializzare, di conoscere nuove persone. Niente, quindi sesso virtuale l'hai fatto? No, niente, assolutamente. Ma come vi ho detto, anche se ero fidanzata, credo che, perché psicologicamente mi ha toccata, quindi io penso che quando non stai bene in questo modo non riesci neanche ad avere pensieri. Cioè, non ti è manco venuto un pensiero sessuale in questi 2 mesi? Non tanto, devo dire la verità. Un vibratorino, una masturbazione? No. Ma ha letto tutto il dottor Zivago. Tu lo sai, Davide, che Francesca è una grande fan del signor Salvini, continua a essere, nonostante non il fatto. Sì, una grande fan del signor Salvini. Sì, lo sostengo molto, ma credo che tutti noi italiani dovremmo sostenerlo, perché è una persona. Beh, adesso un momento, scusi signora, però tutti noi italiani. È una persona pro italiani che cerca di aiutare il nostro popolo. Capisco, quindi cioè, tu lo adori. Io lo seguo sempre. Hai una specie di dappertutto le sue dirette, perché oltre ad essere un personaggio politico, è una persona molto simpatica. Ma tu lo veneri, è una specie di venerazione per lui? Sì, certo, sono sincera. Sì, una venerazione, cioè una praticamente. Ma cos'è che le piace delle idee di Salvini? Ma me ne dica una cosa che le piace delle idee di Salvini. Una cosa, una. Ragazzi, dice questa lui è cerca di tutelarci a 360 gradi, sotto tutti i punti 360. Di vista, quindi cerca di fare il meglio per il popolo italiano. Beh, e proprio da ma una cosa, una che ci tutela, benissimo. Una, in questo momento, se c'era lui al governo, sicuramente non c'erano meno, non ci sarebbe il COVID. C'erano meno, non ci sarebbe 700 euro, non li fanno riaprire anche se sono organizzati, chi sì chi no, c'è una confusione generale, la cassa integrazione non è arrivata. Se c'era lui, sicuramente qualcosa di meglio avevamo. E forse c'erano anche meno morti, diciamo, no? Si può dire, sicuramente si può aggiungere anche sicuramente. Cosa dite? Ma se ci crede, ci crede, perché devi rompere i coglioni? Io penso proprio di sì, avrebbe agito diversamente, avrebbe preso in mano la situazione già dall'inizio. Tu lo vorresti a capo assoluto dell'Italia, una specie di duce. Certo, d'Italia, diciamo, duce d'Italia, cioè magari assomiglia anche. No, duce, il fascismo non esiste più, per fortuna, già da tanto. Però Mussolini, però magari Mussolini qualche cosa di buono l'ha fatta, no, signor Mussolini? Beh, magari. Sì, sicuramente, se andiamo a leggere i libri, tante cose le ha fatte. Ecco, per diciamone una, sì. Che cosa, ad esempio? Beh, se andiamo a leggere cose, dalla pubblica istruzione tante ai cose, monumenti, insomma, ha fatto tante cose per gli italiani, ne ha fatte altre magari di sbagliate. Sì, quindi poi altre. Insomma, una sbagliata che ha fatto, qual è una sbagliata? Io non sono come San Tommaso, quando non vedo non credo, quindi adesso quindi, siamo nel 2020. E quindi non si può giudicare, siccome non c'eravamo durante il fascismo non si può giudicare. E Cruciani zitto, e lui zitto. Però tu dici, gli italiani in questo momento di crisi si buttano dal balcone, mentre in questo momento prima a noi, prima agli italiani e dopo a loro. E sbarcano pure, e continuano a sbarcare. Perché c'è gente italiana che non arriva a comprarsi le uova e il latte con 5 figli a casa. E continuano a sbarcare, Continuano a sbarcare, capito? Continuano ad essere essere tutelati più loro che gli italiani. E che babari, e i kebabari che hai notato in giro? Ho notato in giro. Senta. Casualmente sono fatto una passeggiata, devo fare la spesa, devo passare a Milano, farmacia. Sì. Ho notato che i gelati, i gelatai, quindi le gelaterie italiane sono chiuse. Sono aperte. Non è vero, sono aperte. Ragazzi, ho fatto il video alle 6 di pomeriggio in corso Buenos Aires a Milano, erano chiusi. Il kebabaro era aperto. Non è che hanno privilegiato il kebabaro. Il take away è perfetto, perché non lo mangi lì, te lo porti a casa. Chi le ha fatto di male il kebabaro a lei? Non ho capito. Non ha fatto nulla di male, ma non e allora giusto. Cosa rompe i coglioni a non uno che vende il kebab? Non trovo giusto che gli italiani hanno le serrande sbarrate delle loro attività e invece gli stranieri magari. Ma è una anche balla. Non è una balla, so di per certo che alcuni negozianti stranieri fanno entrare anche dalla parte di dietro per fare delle cose. Dietro? Quindi ragazzi, dalla parte di dietro, le grandi inchieste di Francesca Cipriani. Mi avete rotto i coglioni. Fai anche dei sogni erotici sul signor Salvini? No. Ti capita. No. Comunque è un bell'uomo sicuramente. Cioè, anche, è uno di quelli. Affascinante, anche perché dice cose molto interessanti. Se non fosse fidanzato. È un bell'uomo anche a livello estetico. Se non fosse fidanzato, qualche pensiero lo potresti fare. Certo. Sì. Senti, voglio capire una cosa. A te ti rompono i coglioni sui social, eccetera, i feticisti? Cioè, sì, tantissimo. Ma su che cosa? Sulle tette o anche sui piedi? No, per esempio? Sui piedi, sulle scarpe, sui piedi. Ma i piedi come ce l'hai? Il voto che dai ai tuoi piedi, come ce l'hai? Io sono un po' fissato con i piedi. I piedi io trovo, non ci faccio neanche normali, li do 7, non lo so, dei piedi normali. Cioè non ce l'hai un po' sformati? No, non ce l'hai sformati? No. Un accenno di cipolla, niente, no? No, per fortuna no. Ma cosa ti chiedono? Ti chiedono le scarpe, i piedi? Cosa ti chiedono? Sì, ti chiedono le peggio cose? Insomma, io vabbè, li rispetto, dei gusti, buste, però trovo un po' strane queste cose, poi non rispondo. La cosa più assurda che ti hanno chiesto qual è coi piedi? Ragazzi, ma chiedono anche violenza a volte, tipo vorrei essere calpestato che mi fai male sulle parti intime, vorrei che mi cammini su tutto il corpo con i tacchi alti, vogliono leccare le suole. Ciao, ti abbraccio. Un bacione a tutti, tante ciao, cose tesoro. Belle. Bene, grazie, cara. Pace e amore, ragazzi, per tutti. Peace and love. Tanto. Sono disarmato. Disarmato. Peace and love. Evviva. According to the test carried out at Rome's infectious disease Spallanzani Hospital, an Italian corona vaccine has antibodies generated in mice that work on human cells. This is what the report is stating. Researchers in Rome's Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases said they found that the vaccine has neutralized the virus in human cells. Spallanzani was the first research center in Europe to isolate the genomic sequence of COVID-19. Viewers, this could be very big news. La qualità dell'audio è pessima. Madonna. Ma c'è il problema anche del budget. Roba incredibile, la signora Francesca Cipriani, super salviniana. Come è lui zitto? Come zitto cosa? Ma perché zitto? Da secondare le follie che venivano dette, lui zitto. Avete sentito, no? Mi ha lasciato da solo e lui zitto. Ha lasciato da solo cosa? Un grande classico, da solo. Maurizio dalla provincia di Varese, sì, ma non hai avuto grande difficoltà, insomma. No, Maurizio una lotta. Sembrava fossi d'accordo con lei, con queste sue folle. Dillo che non sei d'accordo. Maurizio, non gliel'hai detto. Dimmi, Maurizio. Dimmi. Eh? Io ho ascoltato la trasmissione dopo un po' di tempo. Sì. E sono arrivato a una conclusione. Quale trasmissione? Sì. Codesta trasmissione, sì. Stavo pensando, allora, sì. La valletta di Giordano ti viene bene. Sì, il sì, cappuro sì. Di Feltri pure. Sì, pure. Ovviamente sì, pure. Tutto questo per tanti soldi. Quindi non ti devi offendere se ti dicono che sei una puttanella. Ma guarda che infatti la parola puttana stata una mia amica, ha scritto tempo fa un grandissimo libro, Annalisa Chirico, dal titolo Siamo tutti puttane. Dunque, se tu mi dici Maurizio puttanella, a me non mi interessa, non mi offendo, perché invece sei tu che offendi il lavoro delle prostitute, delle puttane. tutti noi offriamo qualche cosa, vendiamo qualche cosa. Dunque, se me lo dici tu dicendo sono la puttanella di questo, la puttanella di quest'altro, non mi offendo, non me ne frega un cazzo di quello che dici te, Maurizio, non me ne frega sostanzialmente un cazzo, perché non dici un cazzo, perché non mi offendi. Quando mi dici sei la puttanella di questo, il leccaculo di quest'altro, a me me ne sbatte i coglioni, chiaro? E comunque, ascolta, la considerazione, la comunicazione... Sì... Dovrebbe essere che uno cerca di discolparsi, non aggredire gli altri. Ma da che cosa? Discolparsi da che? Non c'è nessun processo, a nulla. Ma su che cosa? Ma posso dire tu sei la puttanella di Giordano? A che cosa rispondo a questa roba qua? Che cosa? Ma la Valletta che cosa? Ma che cos'è la Valletta? Ho partecipato a una trasmissione televisiva. Allora che cazzo vuoi? Di successo, in cui in alcuni momenti ho detto, certo, di successo, non si può dire che non sia di successo. Può non piacere. Ho ripetuto di successo. Di successo, in cui in alcuni momenti di questa trasmissione mi hanno chiesto delle cose e ho detto esattamente quello che pensavo, niente di più, niente di meno. Coincideva con quello che pensava Giordano? Sì, te la prendi così? Ma no, ma sto rispondendo all'ascoltatore che è un cretino e non conosce le dinamiche di questa cosa. Ragiona con grande tranquillità. Come se io dicessi sei la puttanella, che ne so, sei la puttanella del Mossad, o come se dicessi sei la puttanella di questo, ma non me ne frega niente a me. Tema anche di interesse per capire, per cercare di sviscerare. Ho passato tutta la vita a creare una mia indipendenza, poi sono la puttanella di qualcuno, ma vaffanculo, va Maurizio, fermi là. E dai, che sembra stia finendo. Ecco. E dai. Genio. Questo Covid-19 è un genio. Bravissimo, è meglio di Povia però. Questo Covid-19, cioè è più vero di Povia, meno luoghi comuni usa. Aspetta. Questo qui, vedi? Bravo. E dai. Sembra stia finendo. Devi anche seguire un po' il ritmo, non è facile. E dai. Che sembra stia finendo. Cioè non è semplice. Questo Covid-19, maestro Bini. Questo Covid l'ho beccata. 19. A me sembra di un basico rano. Devi andartene. Covid-19. Beh, ragazzi, ci vuole del genio. Devi sparire. Giuseppe, parole, testi profondissimi. Conduci meglio che cantare, questo possiamo d'accordo. No, te lo possiamo dire anche qua in regia. E la corte stiamo lacrimando dalle orecchie, sangue. No, io sono intonato, ti sbagli su questo. Quando? Quando mi ci metto sono intonato. No, è possibilissimo. E dai. Che sembra stia finendo. Ragazzi, maestro Bini e mezzo. Maestro Bini è immenso. Vai 0505 stanno. You're putting me down again, but it doesn't sound sincere. Allora vi voglio dire, donne, come vi dovete mettere quando appunto vi leccano il pucchiacame? Eravamo rimasti qua. È importantissimo perché ci sta un errore anche da parte vostra. Sì, allora, però. Maggio a favore, no, perché queste cose basta, non devono succedere più, ok? Perché questa quarantena serve per farvi acquisire nuove skills. Allora, innanzitutto, il partner vi lecca il pucchiacame. Sì. Contribuite a questa performance, non fate in modo che lui deve fare il leccaggio e tu non fai niente. Contribuite, rendetevi performer, contribuite alla buona riuscita della performance. Allora ci deve essere una certa... Allora, ve lo faccio vedere pure di lato. Come di lato? Ci deve essere... Ci deve essere una certa propensione, cioè... Allora, ci deve essere una certa propensione, vi dovete mettere così. Cioè, ci deve essere una retroversione verso l'interno. Beh, sì, quello per forza. Ok? Spostando il vulvevolame verso l'interno, ok? Ci deve essere una vera e propria retroflessione. Non lo so come si chiami, una retromarcia, una retroflessione. Spostato vulvevo la mannanza. È questo che dovete fare, perché voi state così, vulvevo la sta là, e chi l'ha da scavare, da scavare. E chi le due cose insieme non sa fa, vuol dire. Due cose insieme, un partner ne sa fa. Quindi contribuite, perché o sennò non arrivate mai. Allora, questo è molto interessante. Aspetta, aspetta, continua, continua. O vulvevo lame, spostatelo avanti, facete una bella retroversione, facete così, è proprio come a così, beh, si ada ad un ortopedico, è questo che dovete fare, ragazzi, per cortesia, ad a fa per me, perché io la maestra non è che sta facendo tutto questo senza niente, la maestra vi sta insegnando qualcosa, perché la maestra o un bucchio a cama, già ce lo leccano. Lì la questione è molto semplice, adesso ridotta dalla lingua napoletana, da qualche espressione gergale eccetera. Sostanzialmente la signora Saulino dice che anche la donna nell'operazione del cunilingus maschile può dare il suo prezioso contributo. In che modo può dare il suo prezioso contributo? Mettendo nelle migliori condizioni il maschio, cioè dire, la espansione del pucchiacchiame significa mettere la figa in modo che sia la più aperta possibile, in modo che non ci sia bisogno poi di una introduzione notevole, di un lavorio notevole da parte dell'uomo, che magari non è capace di farlo, non è in grado di farlo, non vuole farlo. Per cui anche questo va spiegato, andrà spiegato nei prossimi giorni, David, con grande dovizia di particolari. Andrà spiegato. Adesso ti presento un personaggio, prima te lo presento attraverso questi audio. Si chiama Spina, Gianluca Spina, da un po' di tempo spopola sul web con una delle tesi sostanzialmente negazioniste. Ti faccio sentire questo. Chi non è uscito esca. Chi mi raccontano cose di gente indecisa, buonasera. Gente addirittura che non sa se uscire o non uscire, come uscire, uscite. Il mostro non c'è. Se gli studi dal Giappone, dalla California, da tutto il mondo, compreso anche le statistiche italiane, quelle vere, ci dicono che questa malattia ha un tasso di mortalità dello 0,1%, con 28.000 morti, di cui quasi la metà sono anziani morti dentro le case di riposo perché abbandonati, l'altra metà sono stati abbandonati a casa, ma di che cazzo è morto? Di Covid, chi è morto? Medici e forze dell'ordine, le persone vanno trattate come simili. E dovete capire che state nella stessa barca, anzi voi ce l'avete nel sedere peggio, perché sarete i primi a essere vaccinati, sarete i primi a essere vaccinati, sarete le cavie. Io sono uscito senza mascherina, adesso sono entrato in un negozio, il proprietario era senza mascherina, io ho chiesto, devo mettere la mascherina? Lui mi ha risposto, lei mi vede con la mascherina? No, è facoltativa, fantastico, entro. Se lui mi avesse detto, no, guardi, io, sì, è obbligatoria la mascherina, io non gli avrei comprato niente. Io non gli avrei comprato niente. Io non me lo metto il bavaglino. È chiaro? Allora ragazzi, David, so che tu non hai nessuna voglia di chiamare questo signore. Lo so che tu non hai nessuna voglia. Lo sento, anche ti è caduta anche la linea. Dunque non lo so, vedi balbetti, strasci, strisci, zoom. Fai l'inferno, cioè stai strecciando. Non hai nessuna voglia di chiamarlo, ma io lo chiamo. Gianluca? Sì. Ciao, sono Giuseppe Cruciani, ciao. Oh, Giuseppe. Da Radio 24, ciao. Ciao Giuseppe. È un po' di tempo che sempre. È un po' di tempo che ti volevo chiamare. È un po' di tempo. Mi fa piacere, sono emozionato. No, ma perché tu stai portando avanti con grande, come dire, difficoltà e con denunce all'inizio, eccetera, una grande battaglia, che è una battaglia di libertà. Poi uno può avere ragione e può avere torto. Sì, esatto. Mi fa piacere, hai detto, guarda, mi stai facendo emozionare perché non me l'aspettavo. Allora, partiamo da un punto preciso. Tu hai detto, sì, adesso stai dicendo, io ho seguito le ultime cose, uscite che il mostro non c'è. Cioè, tu stai dicendo, sì, la gente deve uscire fuori, giusto? Sì. O no? Sì. Come sì? Ma perché dici di sì? Cioè, perché dici questo? Cioè, tu dici che anche queste ultime limitazioni che abbiamo sono una follia? Allora, io innanzitutto non sono, tu sai, io non sono un esperto né di medicina né di... Sei un motivatore, fai il motivatore. Io sono un negoziatore di professione, io, Io ho fatto per 13 anni l'ispettore di polizia, sì. Ho sviluppato delle tecniche che poi ho studiato personalmente anche di conoscenza del linguaggio del corpo, della comunicazione in genere. Io per vincere nel mio lavoro e per far raggiungere gli obiettivi dei miei clienti, io devo sempre negoziare sul non detto, quindi io ho un istinto che va a capire quando tu mi stai dicendo cazzate. Allora? E io questo l'ho colto fin dal 10 marzo. Cioè fin dall'inizio tu hai pensato che fosse che ci stessero ingannando. Che ci fosse distonia. Cioè sai quando tu avverti incoerenza, quando tu hai la sensazione che quello che ti stanno raccontando non corrisponde alla realtà. Però andiamo alla sostanza, tu pensi che il coronavirus sia una grossa bufala, una grande esagerazione? Diciamola. Io credo che sia un cavallo di Troia. Cioè? Un cavallo di Troia utilizzato per vari scopi. Tipo? Ma che non ci sia l'emergenza sanitaria, perché poi io in tutte le ricerche che ho fatto, in tutti i numeri che ho cercato, nelle testimonianze che mi arrivano, qui è uscito fuori che ci sono studi pubblicati fin dal 2005, che i cinesi non hanno detto cazzate. Da gennaio ci sono pubblicazioni sulle riviste mediche. I morti che ci sono stati a Bergamo, a Milano, a Codogno. Allora, lì bisogna capire le cause. Aspetta, fammi sentire. Tu stai dicendo che parlino i medici sulle cause. Cioè, non credi che tutti questi morti di cui ci hanno riferito, eccetera, siano riferibili al coronavirus? Allora, prima di tutto voglio capire la tutti insieme. Telefonata, Giuseppe, però. Cioè, sono morti tutti insieme. Mi faccia capire, però. Sì, sono Parenzo, voglio capire. Sono morti tutti insieme. Come mai improvvisamente muoiono tutti insieme con gli stessi sintomi, la fatica di respirare, l'incapacità sta emergendo di... ufficialmente, lo stanno dicendo i medici, che le persone non sono morte di polmonite come pensavano, ma di trombosi. Cosa vuol dire? Che ci stanno ingannando, che c'è un grande inganno? Cioè, certo, che... secondo me sì. E per fare cosa? Per arrivare a cosa? Questo cavallo di Troia di cui parli? Per me c'è una strumentalizzazione che può essere sicuramente economica, ci può essere speculazione economica, perché qui la gente sta perdendo tutto e gli si compra la roba a quattro soldi. Quindi scusi, anche gli inglesi? Anche in Inghilterra? Tutta ma in Inghilterra la realtà non è questa. E i burattinai chi sono di questa operazione? Mettiamo che ci sia questa operazione. Come faccio a dire chi sono i burattinai? No, secondo te i burattinai chi sono? Cioè, che ne so, Bill Gates, quelli che vogliono i vaccini. Ma potrebbero essere molteplici. Cioè, io non posso farti i nomi, non so le prove. No, dai, Giuseppe, tu lo diresti che è Bill Gates. No, però io perché, no. Però perché si spinge verso la vaccinazione totale? Dai. Pensa che i vaccini siano una cosa che risolve il problema. Ma se tu vai a parlare col contadino, il contadino ti spiega tranquillamente cos'è il virus. Il virus è una cosa che vive. Come vive il batterio, come vive. Dunque, se esce il vaccino, tu non lo fai. Cioè, una volta no, che c'è. Ma assolutamente no. Tu la mascherina la metti o no in giro? No, io non la metto. Cioè? Ma noi siamo nati per. Naturalmente noi siamo nati. Per stacco la mascherina in faccia. Cioè, se fa male, secondo te, fa peggio la mascherina. Asia la portano in continuazione. Ma che vuol dire? In Asia è normale portare la mascherina. Io ho pubblicato sui miei profili Facebook tutto quello che io sostengo. A fonti mediche. Scusami, posso dirti un'altra cosa? Secondo te è una specie di dittatura quella che stiamo vivendo? Per me è uno dei mezzi attraverso cui si sta imponendo una dittatura, certo. E la dittatura porterà al vaccino, cioè alla vaccinazione? La dittatura può portare al vaccino, come può portare anche a tante altre misure. Ma magari arrivasse il vaccino. Ma può esistere nel 2020 l'obbligo di vaccino? Ma adesso guardate la realtà. Certo, ma ci mancherebbe altro, perché muoiono le persone. Ma che stai scherzando? Ma è una roba criminale dire no al vaccino. Ma il 50% è morto nell'RSA abbandonate. Ma capite? Scusi, signore, che non so neanche lei che risponde. Ma per fortuna no. Ma ho avuto persone che conoscevo ricoverate per il Covid. Assolutamente. Ma lui è convinto che è una farza. Lo può dire, io spero lo possa dire. Ma lo può dire, ma è uno psicotico. No, ma che psicotico? Ma che psicotico? No, ma che si offende? Basta curarsi. È uno che. Ma sicuri lei? Basta curarsi, è una terapia. Ma ha chiamato lei? Perché è una follia. Dire che non è una follia. Bisogna discutere su basi. No, serie, ma perlomeno verosimili, basi verosimili. Quante persone conosce? 1000? Sì, mille, anche di più. Credo. Sì. Ok, 3.000? Mi dia una base di calcolo. Ma non lo so, 1.000, 1.500, non lo so. 1.500, però, morti, un conto morti? È conoscere, un conto una, è... Una. E parecchi Giuseppe, ricoverati. E parecchi ricoverati. 5.000. 5.000, quanti morti c'hai? Nessuno. E allora, di che stiamo parlando? Vabbè, ho capito, però non è che il sistema un sistema di calcolo. No, però Giuseppe, ascolta. Allora, noi abbiamo dei dati di calcolo. Da premesse sbagliate. No, vabbè, io voglio arrivare a una conclusione. Chi ha deciso, sì, secondo te, questo secondo il tuo ragionamento, questo imprigionamento prima e adesso ancora questa limitazione della libertà, eccetera, eccetera, questa specie di quella allora, che tu chiami la dittatura sanitaria. Chi sono i burattinai? La storia che sia poco seria è provata dai diversi atteggiamenti che ha assunto ogni governo rispetto a questa cosa. Se l'emergenza fosse reale, ci sarebbe stato un fronte comune. Invece la Svezia agisce in un modo, la Germania in un altro, la Francia in un altro, l'Inghilterra in un altro, la Spagna più o meno simile a noi. Comunque l'emergenza. Tu mi sembra che sei uno dei capofila, Gianluca Spina, mi sembra che sia uno dei capofila dei cosiddetti negazionisti, lo possiamo dire? Cioè, tranquillo. Vai, ciao, ti abbraccio, ciao. Anche a te. Ciao. Vi ordino di telefonare al numero di sovraimpressione. Chi è? Come mai non telefonare? E che succede? Ma l'urlo di ieri non me l'avete tagliato? Il nuovo urlo, il nuovo urlo benzoniano. Tra due o tre anni che ti dico: perché non telefonate? Tu sei così. Vabbè, tra qualche anno sei ridotto. Paolo, sei ridotto, ti assicuro così, che sei ridotto. Ti assicuro così. Di no, che è impossibile. Ti assicuro che c'è. Fammelo risentire perché non telefonate. Aspetta, risentire che è meraviglioso. Li potete trovare tutti su YouTube. Va bene, amico urlo, mio. Faccio un urlo i nani, finale. I nani. Beh, ma sei tornato quello di prima, Richard. Certo. Vi ordino di telefonare al numero di sovraimpressione. Chi è? Come mai non telefonare? E che succede? Ma lì bisogna mettere dopo. Vi ordino di telefonare al numero 800 24 0024. Ma vaffanculo, va. Paolo da Bari, dai. Paolo, dimmi. Giuseppe. Dimmi. Ciao Giuseppe. Un intervento velocissimo su due personaggi che sono intervenuti stasera. Sì. Che tra l'altro sono di accomuna lo stesso filologico di Paolo. Parla senza auricolare, no, senza via voce, dai, niente. Amico mio. Non c'è niente, però non si sente un cazzo, dai Paolo. Dimmi. No, però mi dispiace, ti richiamo. Dimmi, dai, forza, dai. Uno è Feltri, che cazzo lo chiami a fare ancora Feltri? Sono cazzi miei, chiamo chi mi pare in questa radio. Chiaramente, delle due l'una, si vede ben, allora, un uomo senza palle, come Povia, sai perché? Perché? Perché lui dice la sua, e su questo nessuno vabbè, allora... da dire. Ma non puoi vedere le giustificazioni, è razzista. Ma razzista nei confronti di chi? Degli omosessuali? Di chi ha detto semplicemente una... Qualunquismo. Quando parla qualcuno, ma tu parli a nome di chi? Chi stabilisce cosa? Oh. È razzista, Giuseppe. Salvatore, è provincia di Bari, non rompere i coglioni. Salvatore dalla provincia di Bari, vai, Salvatore. Sì, sono qui. Dimmi, chi è? Sono qui, eccomi. Ma chi è? Ma chi eccomi. È? Ma eccomi cosa, Salvatore? Eccomi cosa? Eccomi che? Questa è manada, sicuro. Cioè, questa è manada. Ma questa è manada, Maiali! Che c'è? Stavo aspettando tutta la pagina che dovete mandare la trasmissione. Maiali. Ma questa è manada, questa è manada. Sì, sono qui. Questo è quel cretino di manada, il ristoratore quello là, il mezzo comico che fa il sono qui, eccomi. Ma che cazzo vuoi, manada? Non si sente niente, manada, non si sente niente, manada, non si sente nulla, manà. Non si sente niente, non si sente niente. Sono qui, eccomi. E allora che vuoi? Che vuoi? Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta.